andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle riunioni sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Caro Giuseppe, caro Palenzo, buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Complimenti per il programma, ti seguo sempre, dalla mattina alla sera. Iniziamo con una buona notizia, caro Parenzo, una notizia ottima, splendida, meravigliosa per il nostro paese, per le nostre finanze, per il benessere pubblico, per tutta la popolazione italiana. Hanno ritrovato la Porsche rubata a Ferrero. Sì, hanno... A Sorviperetta, sì, ho visto, rubata a Sabaudia. È una grande notizia, è una grandissima notizia. Qui però, scusami un secondo. Dimmi. Che c'è? Che sono fa? Nello studio dove fino a pochi secondi fa... Sì, chi c'è? Sebastiano Barisoni. Mamma mia, che ha fatto? Puzza lo studio, puzza da morire. No, profuma con questo profumo di capri. Profumo di capri, amico mio, profumo di capri. Ha fumato dentro lo studio, sicuro. No, che ha fumato? C'è il profumo. No! Sì. È il suo profumo, quello di capri. Ma che profumo, quello puzza. Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni. Allora, una grande notizia, apriamo così, una grandissima notizia. Profumo di capri, profumo. Per il paese, una grande notizia per tutti. Hanno ritrovato la Porsche. Bene. Del Viperetta, la polizia. Sì. E lui. Gliel'avevano rubata una notte tra domenica e lunedì a Sabaudia. Aspetta. No, presidente, un attimo, presidente, fermo lì. Allora. Aspetta, presidente, è contentissimo. Ringrazia la polizia, senti. Sono sempre stato, infatti parlano, un uomo della legge, perché ho sempre ammirato la polizia stradale per due motivi. Uno, perché nessun cittadino capisce il lavoro che fanno e li vedono come il male del secolo. Invece dovrebbero capire che questi uomini rischiano la vita per noi tutti i giorni. E io, se devo essere sincero, me l'aspettavo, perché ho sempre creduto in loro. Non c'è bisogno di fare questo elogio. La polizia statale. Stradale. Statale, ha detto. Ma no, stradale, che cazzo dici? Sono sempre stato ammirato dalla polizia stradale. Beh, adesso sì, per carità, io sono sempre dalla parte dei poliziotti, delle forze dell'ordine e tutto quello che volete. Però non sì, è che chi è che mi cambia mentre sono in diretta? L'ammirazione per la polizia stradale. Beh, amico mio, vi abbraccio fortissimo, tutti i poliziotti. Però è che un po' sospetta questa ammirazione di Ferrero. Gli rubano la Porsche e la ritrovano. Tra l'altro, rincoglioniti quelli che gliel'hanno rubata. Ma che cazzo della ladri so? Dopo un giorno già gli hanno ritrovato la Porsche a Ferrero. E vendetela, no? Cioè, ma che fate? Ladri! Su, ladri! La Porsche! Fate i ladri! Italia! Ancora! A volte mi capitano anche a me degli episodi che magari qualche signore in divisa che ha fatto dopo 10 ore è nervoso. Ma noi facciamo un errore, andiamo a prendere solo quel piccolo particolare negativo. Ciao, grazie a tutti, ciao, e viva la gnocca! Calma, adesso. Non c'è bisogno di fare questa esaltazione della polizia stradale. Ci mancava solo che andava, non lo so, in caserma a dare un regalo. Sicuramente avrà fatto un regalo alla polizia stradale, sicuro, a quelli che hanno ritrovato la Porsche, sicuro. Un abbonamento. Bar film. No, la partita di un abbonamento alla Sandro. Ha fatto un film, si chiamava Polizia. No. Pagato tutto con i soldi dello Stato. No, ma che c'entra i soldi dello Stato? Adesso lascia perdere Viperetta, dai. È numero uno, dai. Oh! Ti voglio, parlando anche un po' di politica ogni tanto, sì. Ti Beh, voglio... Il caso Crocetta ancora sì, ascolta. Sì, il caso Crocetta, certo, ancora ascolta. Importantissimo. Però la signora Boldrini, la signora Boldrini, no, dici Boldrini, che ha combinato... No, con questo caldo, sì, hai ragione, Boldrini, hai ragione, non dovrei parlare della Boldrini. Gradi a Roma, hai ragione, Boldrini. Hai ragione, la gente appena sente la parola Boldrini diventa matta. Diventa ma no, matta. Poi col caldo soprattutto. Sì, hai ragione, però cioè, la gente io, in macchina, infatti, col caldo. Io volevo ignorare. È un mese che non parlo della Boldrini, cazzo. È un mese, è un mese. Si può, secondo per me. Per fortuna è da un mese che la Boldrini non parla. Cioè parla poco, dice cose normali, formali, di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Oggi è tornata a parlare. Beh, amici miei, cose importantissime, cose che meritano una riflessione, come dice lei, no? Allora, ha parlato degli... Tu sarai pure d'accordo, tra l'altro. Ti anticipo che potresti essere d'accordo su questa cosa qui. Drammaticamente d'accordo. No, tu potresti essere d'accordo. Sì. La Boldrini parla di ecorifugiati. Cioè, esiste un'altra categoria di rifugiati, oltre a tutti quelli che conosciamo, quelli dalle guerre, quelli che vengono qui perché non ce la fanno più di stare in Africa, quelli che vengono qui perché hanno fame, vogliono mangiare, eccetera, eccetera. Ci sono gli ecorifugiati. No, non sì, sono sì, gli ecorifugiati. Vedrai che sei d'accordo. Senti. Però questa figura si sta imponendo sempre di più, l'ecorifugiato, la persona che appunto a causa dei cambiamenti climatici e di tutto quello che ne consegue è costretto a scappare perché appunto non ha più di che vivere. No. No, ti assicuro che no. L'eco rifugiato no. Cioè piamo se pure gli eco rifugiati, no, bellissimo. Ma non... Beh, no. Ma perché non prendiamo, che ne so, quelli che si svegliano male la mattina, i depressi del terzo mondo, ci saranno i depressi nel terzo mondo, no? Rifugiati. I rifugio depressi, non lo so, cioè i rifugiati psicologici, cioè quelli che se sentono male la mattina, i depressi, cioè in India, che non so dove, in Africa ci sono un sacco di depressi, gente depressa. Pigliamo pure quelli, no? Merita una riflessione questo. Nessuna riflessione. Gli ecorifugiati. La trovo una cosa straordinaria, devo dire, un'invenzione straordinaria. Prendiamoci anche gli ecorifugiati. Oh, è tornata a parlare la tua amica Moretti, Alessandra Moretti. Alessandra Moretti. Lasciamo perdere le considerazioni sulla sua campagna elettorale perché non ce ne frega assolutamente nulla. Il peggior risultato della sinistra, credo, nel dopoguerra. Ma lasciamo perdere, non è questo il punto. Cioè, Moretti dice che bisogna obbligare i sindaci veneti, o voi veneti che siete l'ascolto e siete tantissimi, potete tranquillamente seguirci su questo ragionamento. Obbligare i sindaci veneti a prendere la loro quota di immigrati. Cioè, bisogna obbligare anche il signor Formaggio, che abbiamo sentito ieri, che vuole murare le case, il sindaco, che ne so, di Quinto di Treviso, a prendere la loro quota di immigrati. Obbligare. Lo sapevo che ti pizzicavo. Non è sbagliato, ma la contraddizione è che io l'ho sempre pensato, ma non faccio politica, il mio parere non conta niente. Lei non l'ha detto in campagna elettorale. Lei, no, tutt'altro. Sì, in campagna elettorale un po', sosteneva cercava. I sindaci che rifiutavano i migranti. Vabbè, vai, non ci frega un cazzo, ormai non è superato. Niente, dai. È superata la campagna elettorale. Ma chi se la frega, dai, migranti, dai. No, la campagna elettorale. Ah. Allora dobbiamo dichiarare, secondo me in Veneto, per esempio, dove ci sono stati gli scontri più accesi, lo stato di emergenza in modo da obbligare ciascun sindaco a prendersi una piccola quota di immigrati, uno ogni 1000. Sì. Questo significa accoglienza diffusa. Merita una riflessione questo. Allora, siamo qui, popolo della radio, 800240024. Però, amico mio, il problema è un altro. Se tu sei maschio, tu sei maschio, no? Fino a prova contraria, giusto? Mi dicono di sì. Cioè, tieni il pisello, no? Tieni il pisello. Anch'io tengo il pisello e sono maschio. A un certo momento della mia crescita penso di essere femmina. Che faccio? Mi opero, non mi opero? Adesso, dopo una sentenza della Cassazione, un ricorso pare di una transessuale, tu puoi dichiarare di essere femmina, cioè io posso andare là, mi sento femmina. E cambiare la carta d'identità. Certo, d'identità. Ma giusto, certo, cazzo. È civile. Non mi puoi dire una cosa del genere. Dai. Ognuno lo è, sai, non ciò che lo Stato ti dice di essere, no, tu che sei però, liberale dovresti capirlo, sì. Ma ciò che senti di essere. No, non però, è lo scusami, Stato io che sono, decide. Io sono, tu sei Giuseppa Cruciani. ad esempio, no, domani. Io sono a favore. Peppa Cruciani, bellissimo. Io, la Giuseppina Pig, Cruciani. Sì. Peppa Pig. No, no, io sono a favore. Cruciani, no, io sono a favore dei transessuali. Ecco, sono ma amico qual è il problema? Di un sacco di trans. Perché sei diventato così stato. Però ci sono delle regole, amico mio. Un minimo ce ne sono di regole. Un minimo, un minimo. Ma lo Stato cosa gli interessa sapere? Allora, se ti fai l'operazione e ti tagli il pisello, allora a quel punto diventi femmina. Se non ti fai l'operazione, rimani maschio, poi ti sentirai. Perché tu devi. Ma allora, dal punto di vista dello Stato, qual è il problema? No, ma tu apri, no, ma ti chiedo, apri un sacco di problemi. Perché tu. Basta che vai, come si certifica il fatto che tu diventi femmina? Da che cosa? Ti devono fare una prova ormonale prima di chiamarti Giuseppina? Io una follia. Ma no, io non ne potevo una follia. Però se uno vuole avere sulla carta. Cioè, non serve l'operazione per cambiare sesso. Ti pare una cosa giusta a te? No, ti pare una cosa normale? Si ti piace un mondo così? No, ti piace un mondo così? Lo Stato ti piace un mondo così? Ti piace un mondo così? Ma no, tu sei una dinolfiana in questo ma momento. No, in questo caso non sono dinolfiana, io sono un luxuriano, sempre, sono sempre. E allora, ma lo che, Stato, c'entra? Che c'entra? Che ma la domanda è che a chi fa male, a chi crea danno? Ma questa no, roba? Ma provoca casino, dai, ma caos, chi provoca? Può capire. Essere anche a favore del caos, sono sempre a favore del caos. Ma però chi provoca casino? Se tu domani mattina ti svegli, io sono Giuseppa. Ma no, ma dai, non è una cosa normale, dai. E mi sento perché mi sento molto ma donna. Come dentro, non è mi normale? I capelli, io lo dico qua e lo nego, poi apriremo un lungo discorso su questo discorso. Forse non è dibattito perché odio i dibattiti. Poi odio i dibattiti ormai. I dibattiti li trovo odiosi. I dibattiti. Ti prego, io ti scongiuro. Perché io veda solo una puntata di quella trasmissione che farai ad agosto in onda? Sì, una sì, sola puntata. Non lo so. Verrai, sarò, magari anche una sera. Non lo so, verrai, beh, volentieri. Magari, se avrò tempo, volentieri. Se non so, sarò tempo, disponibile. Fare, no, il non hai il traffico da mandare. No, però ti prego. Verrai, ti scongiuro. Sì. Ti scongiuro. Non io spero che tu. No, io spero che tu abbia un grandissimo successo, per carità. L'unica cosa che ti prego. Non fare il dibattito con 3B, ti prego. Ma cosa devo fare il dibattito? Un confronto, cos'è che ti piace? Non lo so, un monologo, non lo una so. Rissa, un monologo facciamo. Non lo so, però non fare il dibattito. Facciamo un monologo. Allora, io non sopporto il fatto che l'Europa, il tribunale là europeo, no, là come si chiama? La Corte di Strasburgo ci dica a noi che cosa dobbiamo fare. Lo trovo una cosa che oggi odiosa. No, io non gioisco per questo di qua. Questa sentenza. Noi dobbiamo approvare, cambiando la Costituzione solo di una riga, la parità tra il matrimonio eterosessuale e il matrimonio omosessuale. Non perché ce lo dice un cazzo di tribunale europeo, chiaro? Questo è evidente. A meno no, secondo momento, me. Non è che l'Europa funziona solo quando non ci pone la moneta. Non mi interessa. Anzi, questo è l'aspetto positivo dell'Europa. Quando vabbè, ci dice siete indietro sul tema dei diritti, ma dai, fermo, ma difendi, scusa. Fermo lì, questo. Fermo lì. La zanzara. Io devo fare, voglio abbracciare fortissimo questa signora, la voglio abbracciare fortissimo, ha avuto le palle di rispondere al sindaco Marino, poi è stata attaccata quella dei due neuroni, signora Lucia buonasera, come sta? Come dica? Come sta? Io sto bene. Io Lucia sto Rinaldi bene. Lucia Rinaldi, quanti anni ha signora? Lo so che non si deve chiedere, però no, io glielo chiedo, sono 67. 67 anni, senta sì, cara signora, ma mi dica tutto com'è successo. Cioè, com'è successo? Le dico brevemente. Brevemente, perché sì. La signora gentilmente, ma niente, domenica mattina, siccome c'era la commemorazione del bombardamento di San Lorenzo, sì, io la mattina presto mi hanno svegliata alle 5:30 anche di domenica, perché sono arrivati quelli della Nettezza Urbana a pulire i giardini. Io ho fatto fra di me. Guarda, oggi hanno pulito i giardini. Non mi sono resa conto che arrivava il sindaco per la commemorazione, perché lui qui non si è mai visto. Amica mia, lei doveva sapere che qui tutta Roma, fanno, però, fanno le pulizie apposta perché arriva il sindaco in tempi normali. Il sindaco. Allora, prima siamo scesi, io siccome rispetto e sono una vecchia di San Lorenzo, perché sì, da generazione di mamma, da nonno, sì, e mio nonno è stato perseguitato, era anche un partigiano tra sì, l'altro, pure. Io mi sono affacciata, sì, ho aspettato la commemorazione, lui si è presentato 10 macchine blindate con 20 poliziotti e guardie del corpo, ha fatto la sua funzione, ha fatto sì, il suo discorsetto e è finito lì. Siccome qui nel quartiere hanno cominciato a fare una specie di comitato, proprio perché il quartiere sta sì, in un degrado sì, allucinante. Ci spieghi un po' sto degrado, davanti a casa sua che succede? Che succede? Succede la movida, la musica fino alle 2 di notte, traffico di droga, spaccio di tutto, di tutto. Ma pure davanti al suo pianerottolo, davanti a casa sua? No, a casa mia no, totalmente, perché il portone è chiuso, ma se io scendo, scendo e vado a mangiarmi una pizza per dire con i miei figli, è capace che uno all'angolo mi ferma e vuole la dose, gli compro la dose, ha capito? È un degrado, è un degrado pazzesco. Ma senta, ma lei ha fatto un controllo? Non se ne vede, carabinieri, non si vede nessuno. Senta, ma lei ha fatto un controllo su, se hai i due neuroni che lei ha indicato, Marina, ha fatto un controllo da medico? Io andrò a fare la TAC per vedere se mi funzionano bene. Infatti già io l'ho detto pure a Mediaset, che oggi sono abbondante. Pure Mediaset è venuta. È venuta Mediaset, è venuta la Rai, sono venuti tutti i giornalisti che non ne posso più, scusare. Vabbè, ma è normale. Io ho detto, infatti dovrò prendere un appuntamento qui al Pellegrino, fammene fare una TAC a vedere se i neuroni miei mi funzionano. Ma lei è rimasta veramente molto offesa da questa molto cosa. Molto offesa, molto perché da un primo cittadino, che io da cittadina con tutto il mio diritto, perché non parlo come Rinaldi Lucia, parlo come cittadina. Scusi, signora Lucia, cara. Ho fatto una domanda sul degrado del quartiere e lui mi ha risposto in quella maniera incavolatissima. Un cafone? Da cafone proprio. Parenzo, dimmi. No, ma dico alla signora Lucia che saluto. Tutte e due avete esagerato, dai, ma non facciamola così grossa alla fine. Lui si è sentito urlare e ha risposto una battuta sui neuroni, amica mia. Dai, Lucia, su, è una battuta forse infelice, però chiudiamola lì. Basta, ma come fai a dire una battuta? Quella è una signora che protestava sulla situazione nel quartiere, ma e quella è il sindaco. Quello è il sindaco. Mi deve chiedere scusa, glielo dica a quello che sta in diretta dall'altra parte. No, quello è il signore Parenzo. La sua figlia gli ha detto una cosa del genere. Neuroni, ma è un modo di dire, come dire, signore, no, si calmi, il caldo. No, non è un modo di dire, un primo cittadino non si può dire ma è una persona perché... anche lui, gli può partire la frizione anche a lui, due minuti, non è che la tensione insultata. Ma un primo cittadino si deve controllare, ma ha ragione la signora, dai, ha ragione la signora. Adesso difendiamo la signora, d'accordo, sì, un caso clamoroso. Non ho parlato come Rinaldi Lucia. No, ma è un caso clamoroso. Ma anche lei, signora, comunque là, non dico che ha aggredito il sindaco, però si è rivolta, si è rivolta in maniera molto forte, lì era incazzata nera, no? O no? No, io non sono, perché io sono una persona normalissima e non sono per niente incavolata. Sono una persona che rispetto tutti e pretendo che anche gli altri mi rispettano. No, la mattina lì, quando io l'ho vista davanti al sindaco, pure lei. Perché lui ha cominciato, ha fatto un gesto, come per dire, ma chi vi sta a sentire, e se ne stava andando con tutte le guardie del corpo? Abbiate pazienza. Ah, ho capito, cioè non vi stava ascoltando. Io gli ho chiesto, adesso lei si ferma un attimo, visto che abbiamo ascoltato lei, adesso deve ascoltare noi. E lì è successo quello che è successo, solo per avergli fatto per avergli fatto una domanda, che con tutto il mio diritto, visto che sono una cittadina, pago le tasse e vivo dentro a un degrado allucinante, ecco, allora avrò tutti i miei diritti. Ma la signora parla anche in maniera, abbiamo visto tutte le immagini, lei si è rivolta in maniera molto forte al sindaco dicendo qui lei è arrivato solamente ma il sindaco ha sbagliato, d'accordo, ha risposto ma lei veramente vuole andare in tribunale? Il sindaco è una persona come tutti gli altri. Non lo so, adesso in questo momento siccome fa tanto caldo qui, ci devo pensare, devo riflettere e devo valutare determinate cose, poi devo chiedere al mio legale. Ma il sindaco può partirla? È consentito al sindaco che un uomo fino come a tutti oggi gli altri non ha fatto una dimostrazione di scuse. Cioè lei si aspetta una telefonata almeno? Almeno una telefonata, ma non ti dico che mi deve chiamare il sindaco, almeno anche sul giornale o pubblicamente che mi dia delle scuse. Beh, ma è normale perché... questo qua, quando uno dice due neuroni, a Roma questa espressione qua, anche da altre parti penso, dice se c'hai i due neuroni che ti rimangono, significa sei talmente cretina, sei talmente... No, è un modo di dire, gli ha dato della deficiente. Sì, ha sbagliato, d'accordo, ma se uno ti insulta per dire... La parola l'italiano lo conosco abbastanza bene, i neuroni so che cosa significa. Forse lui se pensava di parlare con la gente sottosviluppata, visto che viviamo in un degrado, lui pensa da parlare con la gente sottosviluppata, ma i sottosviluppati sono i zingari che lui gli permette di fare quello che fanno, forse loro saranno sottosviluppati, non noi, perché proprio al contrario lui ci ha creduto che noi eravamo tutti sottosviluppati. Ma va cacciato questo sindaco, signora? Per me, la città da quando c'è sta lui già era in degrado con gli altri sindaci, con questo ha peggiorato la situazione. Dunque va cacciato, scusi, secondo lei? La delinquenza, i zingari che si permettono di occupare, di fare quello che fanno, la sporcizia, per me ha peggiorato la situazione. Dunque, scusatemi, secondo lei prima se ne va meglio è? No, prima ho detto il peggio non è mai morto, da piano piano da Veltroni è andata sempre peggio. No, dico, ma qui prima se ne va Marino meglio è per Roma, dico, secondo penso lei? Penso di sì, a questo punto sì. Ma lei non l'ha votato? Lei non l'ha votato, no? Io non voto nessun io non, non ho votato nessun sindaco, io non sono una politica, io non sono né di destra né di sinistra, no, perché a me della politica non mi interessa nulla. Non so, magari le piace Salvini. Magari le piace Salvini. No, a me non mi piace nessuno, tanti politici per me sono tutti uguali. Tutti uguali. Perciò io è inutile che voi mi fate domande a trabocchetto. Ma no, che trabocchetto, signore? Sì, perché voi date anche i giornalisti, lei di che partito è e chi ha votato. Io non voto, io sono una cittadina e voglio vivere bene. Bene. Nella mia città di cui sono nata, sì. E adesso mi vergogno di vedere questa città. Sono talmente disgustato di vedere questo degrado. Ma vi ha trattato? Perciò voi non fate il giro delle parole. Ma no, ma che giro delle parole? Ma che giro della parola, signora? Lei pensa di parlare con una cretina? Ma io sono dalla parte sua, ho detto che lei ha ragione con Marino, più di questo che no, devo no, fare. No, no, perché c'è l'altro interlocutore. Ma l'altro è... L'altro interlocutore, cioè Parenzo, pensa che, lei che basta, d'accordo, ha sbagliato sto sindaco, ma non stiamo adesso a fare il cinema su questa roba. Il tribunale, le cose, due neuroni. Marino, se lui pensa che, come dite tutti i giornalisti, che io ho ragione, la RAI, Mediaset, a suo punto lui mi deve chiedere scusa. Deve fare una bella telefonata. Perché non è per me, come Elina Di Lucia, come cittadina mi deve chiedere scusa. Ma cosa vuol dire come cittadina? Perché chiunque deve, allora, chiedere, deve fare quartiere. Una telefonata e dire: deve fare una telefonata e dire, ho sbagliato a dire i due neuroni in testa, cara signora. Perché una signora di 67 anni che ha quello che vive, quello che vive ogni giorno, e fa delle domande anche in maniera un po' forte al sindaco, ecco, va rispettata. Ecco che va rispettata. Protesta, va eccolo rispettata. Che cavalca. Eccolo bene, che cavalca. Okay. E dai, su, o no? D'accordo. Scusi, ma vi ha, trattato come degli scarti, come delle cose, delle pezze da piedi, come si è sentito? E quello lui pensava, che eravamo tutti sottosviluppati, ha capito? Lui pensa nel suo cervello, non lo so. Non lo so. Ma ce l'ha due neuroni? Due neuroni ce l'ha lui, Marino? Lui non lo so, questo non lo posso sapere se ce l'ha. Beh, è un medico. E neanche mi interessa, insomma, se ce l'ha. È un medico, si faccia visitare da lui. Sì, infatti dovrò a lui se mi fa una visita. Ma si farebbe visitare lei da Marino per una visita così generale, diciamo? Io da lui? Senti, vabbè, guardi, siccome sto dentro al negozio, una signora gentilmente non gli posso tenere occupato. No, per carità, telefono. la lasciamo. Vabbè. Signora Rinaldi, buona fortuna, mi raccomando. Lei, Marino, chiama, Marino, chiama Rinaldi, Marino, chiama San Lorenzo, chiama San Lorenzo. Vediamo il numero del telefonino. No, non lo diamo, per carità. Pubblicità, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Sempre stato, e infatti parlano, un uomo della legge, perché ho sempre ammirato la polizia stradale per due motivi. Uno, perché nessun cittadino capisce il lavoro che fanno e li vedono come il male del secolo. Invece dovrebbero capire che questi uomini rischiano la vita per noi tutti i giorni, e io, se devo essere sincero, me l'aspettavo, perché ho sempre creduto in loro. Porsche di Ferrero. Oh, stai a sentire questo deputato del Partito Democratico che era prima in sciolta civica, che si chiama Andrea Romano, no? Sì, a proposito dell'idea della Lega di legalizzare la prostituzione. Senti un po'. La prostituzione, io trovo che la proposta della Lega sia molto bislacca. Intanto dobbiamo sempre ricordare che la prostituzione è schiavismo, non è che sia un atto volontario. Quindi trasformare l'Italia in un grande bordello, in un grande campo schiavistico, non mi sembra una grande idea. Cioè, trasformare l'Italia in un grande campo schiavistico, ma dai, su, dai. Ma non, veramente non c'è il senso del ridicolo quando uno dice queste cose qui, eh? non c'è il senso del ridicolo. No, sì, no, ma su questo infatti non dai, su, cioè, no, trasformare, favore, ma che la Germania del... la Germania è un grande campo schiavistico, no, l'Austria è un grande campo schiavistico, a favore la Svizzera, della chiuse, la Svizzera però... è un grande campo schiavistico, ha ragione sul fatto che va combattuto, ma queste, vabbè, ma queste sono banalità, sono banalità, diciamo, grazie che va combattuto, combattuto lo sfruttamento, guarda, da, su, in qualsiasi campo, nel campo sessuale, nel campo, ma Cruciani, io senti, sono tornato oggi di sulla pontina, no, ma non mi interessa, nelle capre, cioè, quello è un deputato della Repubblica che ha detto, va bene, che se ma la ha detto una cosa, no, ha detto, no, una, ma io ti ho detto, ha oggi stavo cazzata, tornando in macchina dalla pontina, da Anzio fino a e Roma, allora, sulla pontina era un susseguirsi di signorine evidentemente sfruttate, a credo di origine, so, albanese, magari qualcuno alcune, stava là per i cazzi suoi, rumene. No, no, no, le condizioni, no, quelle no, non erano lì per i cazzi e vedevo file, no, di alcune macchine di maiali, di miserabili, scusami, miserabili maiali, perché? Perché? Che a mezzogiorno, mentre il sottoscritto perché con la sua miserabili macchina, maiali, scusa, non buono, ho capito, perché miserabili mentre il sottoscritto maiali con la sua macchina, gente che voleva cercare nella calura sesso estiva verso la città, chi se ne frega, trovava dei miserabili maiali, mamma mia, miserabili maiali che si fermavano a fianco all'immondizia, certo, dove erano sedute queste ragazze su cumuli, allora, di immondizia pasoliniana, bah, andavano a cercare sfruttamento, non amore, oh, miserabili maiali, ma che miserabili maiali, guarda, gente normale, avevo il cellulare scarico purtroppo, altrimenti sì, avrei chiamato io la polizia, che... ti assicuro, la polizia, sì, sì, sì, la polizia sì, lo sa benissimo quello che sì, succede sì, lungo miserabili la pontina, miserabili maiali che si fermavano all'ora di pranzo anziché stare in ufficio, anziché andare a prendere i loro figli a scuola, anziché andare alla piscina con i bambini, sai che anziché sei... fare una carezza alla moglie, andavano a puttane sulla pontina, miserabili maiali, ma lo sai che sei veramente un poveraccio, miserabili maiali, sei... chiudiamo qui la trasmissione, sei... andiamo a casa, sai ora, che sei veramente un poveraccio, chiudiamo, sei chiudiamo di un moralismo, qua, sei chiudiamo, di un moralismo, non c'è moralismo, di un moralismo, andare a prostitute in Germania, nei posti per bere, dove c'è tutto, allora, regolato, la differ... dove non c'è sfruttamento, ma chi te l'ha detto, quelli che a mezzogiorno che vanno sulla che pontina, che chiedi a qualcuno se c'è sfruttamento o no, scusi, sì, signora puttana, lei è sfruttata, lì erano miserabili maiali, ah, che a mezzogiorno col sole cocente, a mezzogiorno fermavano la loro vergognosa, ma so, macchinetta, ma sei peggio, sei peggio di Domazzi, borghesi, ma perché non ti scrivi in qualche parrocchia, maiali, maiali, zitto, miserabili, zitto, maiali, zitto. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Ma questo non c'entra niente, cara cara signora Miche Rivelli, la la la la la la, cara signora Rivelli, dai, dai, no, dai, su, dai, dico io, Salvini, no, no, fare l'amore non fa male, drogarsi sì. Però contraria, far l'amore in maniera protetta e intelligente non fa male, anzi, drogarsi fa male. E quindi lo stato scafista eppure spacciatore non è il mio stato e la Lega dirà di no. Oh, per il professore Fulvio Abate, professore Fulvio Abate, bisogna tassare la masturbazione. Beh, è straordinario. Ci sarebbe un modo per far aumentare il PIL, anche soltanto in termini nominali, che è quello di introdurre le cosiddette tasse sul vizio. 5-10 miliardi di gettito da tassa sulla prostituzione e 4 miliardi di gettito da liberalizzazione della cannabis. Anche sulla masturbazione si potrebbe mettere. No, vabbè, questo una... lasciamo perdere, no, quella no, allora diventeremo tutti milionari, però... Allora, l'idea di Sallusti è ristrutturare l'Asinara e mettere dentro gli immigrati, cioè invece di metterli certo, nelle in abitazioni, prendi vicino una ai... discarica, un calcio di discarica, metti, no, dentro, discarica, queste... ristrutturare, metti dentro questa feccia di merda, cioè... ma no, ristrutturare l'Asinara, farla ristrutturare ai migranti, tanto cosa ci costa, mettiamo lì quei migranti che... facciamo e fare tutto ai migranti, questi che chiamano la sinistra, chiama migranti, e metterli dentro, affanculo, chiaro. Invece di portarli a Lampedusa e poi in centri di prima accoglienza dai quali spariscono, li portiamo, noi abbiamo una bellissima isola molto attrezzata, è un ex carcere che si chiama l'Asinara, che è deserta, non c'è popolazione civile. Allora se investiamo qualche milione di euro per trasformare quell'ex carcere in un luogo civile dove la gente possa mangiare, dormire ed essere assistita da cure mediche e tutto quanto, questi signori dall'Asinara non possono andare via, perché ovviamente non possono andare via nuoto. Buon anno direbbe bisogna circondare l'Asinara con degli squali. con degli squali, professor Buonanno, capito? Far circondare l'isola da degli squali. Normale, proposta normale, mi pare. Ma insomma, dai. Sallusti, non è normale la proposta? Sì, normale. Squali, ogni tanto appunto questi poveri squali avranno diritto di mangiare, no? Quindi ogni tanto magari butti questo somalo, un migrante, lo butti nel mare, poveri squali. Perché sei un comunista che odia gli squali, tu. Migranti, migranti, prendi e devi mangiare gli squali. I comunisti sono contro gli squali, bisognerebbe titolare, perché non voglio dare da mangiare, scusa. Allora, c'è una giornalista che si chiama Maria Teresa Medici, che lavora per il Corriere della Sera, che si vergogna, non la conosce nessuno, per farla, ma conosco il grande tutti, pubblico non la conosce. Ma tu, la gente per che bene, appartieni, che legge i giornali, che appartieni che si all'establishment, ma la conosce. Ma quale establishment? Tutti la conoscono. No, non la conosce nessuno, ma è giusto che sia così. La signora Maria Teresa Medici dice che si vergogna di essere italiana per quello che si dice sugli immigrati. Non si capisce che cosa si dica sugli immigrati. Perfettamente ragione. Ma perché anche tu ti vergogni di essere italiano? Beh, alle volte sì. Ti vergogni di essere italiano? Beh, alle volte sì. Ti vergogni di essere italiano? Mi vergogno perché l'Italia non è così. Quando sento alcune cose, ad esempio nella nostra trasmissione, quando in alcuni dibattiti ti vergogni di essere italiano, vabbè, d'accordo, ti vergogni di essere italiano, sì, benissimo. Sì, no, ma ha ragione la Meli, perfettamente. Anche se non fossero dei richiedenti asilo, è osceno quello che abbiamo visto e quello che abbiamo sentito. Scusate, io mi vergogno di essere italiana quando sento delle persone dire queste cose, perché ci sono pochissimi emigrati, sono pochissimi gli emigrati che vengono da noi rispetto a quelli che ci sono nel resto d'Europa. Sentire certe cose a me fa raccapriccio, cioè veramente io mi vergogno di essere italiana, è una cosa pazzesca. Allora io dico una cosa, no? Tutti quelli che dicono gli immigrati sono pochi, no? Ed effettivamente i numeri non parlano di un'invasione, come si Bravo. Dice. No, sono uguali, no, aspetta, poco aspetta, meno dell'anno scorso. Aspetta, io anno. Però vorrei sottolineare che il punto non è questo. No. Cioè, chi parla di invasione parla soprattutto al futuro, no? Prospetta, teme un'invasione. Se ne parla con dati di adesso, con dati di oggi, chiaramente sbaglia, perché non si parla di invasione. Però il problema è un altro. Quando tu ti vedi arrivare gli immigrati a casa tua, te ne fotti se sono pochi, se sono tanti. Quando te li mettono accanto, è chiaro che ti incazzi. Non c'entra niente la questione della... Beh, non è chiaro per niente. Ma in realtà, certo. Perché se lo Stato fosse uno Stato serio che organizza la amico mio, loro, se te li mettessero a parlare nel palazzo tuo, voglio vedere come cazzo reagisci. Dipende dai, su, come, dai, come dai, è fatta dai, la cosa, dai, quanto dai, la popolazione del territorio è coinvolta, come è organizzata la cosa, dai, i controlli che ci ma sono. Ma non c'è possibilità di organizzare non nulla, c'è se non... No, niente. Ma non si organizza tutto. Questi Senti, arrivano... le ultime rivolte che ci sono state fomentate da quei signori in nero di Casa Pound. Ma no, fomentate nessuno, si sono introdotti. Si sono infiltrati. Fomentate dalla teppaglia Andrea di dalla Casa provincia Pound, di Parma. Riguardava 19 persone. Andrea, non c'entra niente il numero. 19! Non c'entra Fine nulla. Non c'entra Chiuso. Nulla. Non c'entra 19 niente. 19 persone. Non c'entra mal niente. Gestite, mal Andrea gestite. Dalla provincia di Parma. Non c'entra. Può essere uno, sì, due, tre o quattro. Non c'entra nulla. Andrea, 19. Dai. Posso? Sì. Allora, tre cose per Parenzo. Sì, io prego. Ho già chiamato settimana scorsa. Vabbè, non me ne frega niente la settimana scorsa, dai, dimmi. No, i temi erano così. Ma non me ne non mi interessa, dimmi. Passata la settimana Parenzo scorsa, diceva che lui non ha la verità in bocca. No. Perché allora, quando uno la pensa diversa da lui, lo comincia a dare dei nomi abbastanza pesanti, dei termini abbastanza anche... Ma dipende, pesanti, dipende, come si mette la Quindi, dibattito. No, dipende niente, Parenzo, lo fai sempre sistematicamente. Dipende come si mette la discussione, se uno mi insulta io rispondo. Solo perché ha detto quello che il 99,9% degli italiani pensavano, che a nessuno dispiace se questo si è suicidato, perché un il elemento del genere, del gioielliere, sì, quello l'omicidio del gioielliere, sì, sì. Allora, questo un elemento del genere non serve a nulla nella società, ha fatto solo dei danni, quindi a sì, nessuno però uno può anche dire, può anche rispondere a questa osservazione, chiamiamola osservazione, in questo modo, ma chi decide chi serve alla società? Cioè, no, sì, ok, il termine non è corretto. No, ma il termine non è corretto. Tu dici questo qua non serve alla società perché hai un assassino, diciamo così, un tossicodipendente, uno che pare, anche se non è credo provato, che abbia stuprato, è stato accusato, poi forse assolto. No, ma non è questo il tema. Ma voglio dire, il punto cioè, non è il tipo di reato, che sono reati comunque efferati, terribili, critica, basta con questi aggettivi banali. Fa schifo. È un criminale. Ma è un criminale. Nei paesi civili funziona che il criminale nelle mani dello Stato non si suicida in carcere. Questo è l'unico punto, ma è un criminale e tutti gli imprenditori che strozzati da questo fisco, è un altro tema, ma non ne sono paragonabili perché uno deve dire, che vuol dire, cosa vuole che le dica, che la vita dell'imprenditore vale meno di quella del criminale? No, non sono così stupido come lei pensa. Giovanni, non lo direi mai. Giovanni da Parma, Giovanni allora, da Parma, basta, ciao Andrea, Giovanni, sì, Giovanni è ovvio che è diverso. E io volevo dire a Parenzo che il problema di Marino è proprio il problema della spocchia dell'establishment, e c'è dentro anche Parenzo, perché Marino è indifendibile nei confronti della signora, ha compiuto un atto gravissimo, perché se avesse detto a un concorrente politico sarebbe stato diverso, detto ad un cittadino è una cosa di una gravità assoluta, vuol dire che la distanza cittadino, politico, establishment è gigantesca. Ma lascia perdere la distanza, però ha ragione Giovanni, se Marino si rivolge, se si rivolge così, sì, Giovanni, allora hai ragione, perché se Marino si rivolge così ad Alemanno, a Marchini, ad un suo avversario, ci sta, lei, tu hai due neuroni, non ci capisci niente, eccetera. Se lo fai perché una cittadina, anche se in modo scomposto, in modo un po' irruento, eccetera, ti critica, perché giustamente il quartiere viene pulito solamente quando c'è la visita ufficiale del sindaco e resta invece il degrado quotidiano, e allora no, amico mio, di fronte a un cittadino normale il sindaco tiene la calma, tiene la calma, se sbrocchi, se perdi la testa, te ne vai a casa. Pubblicità. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Pubblicità. La Zanzara. È tutto finito, è tutto degradato, è tutto. Merita una riflessione questo. Vabbè, ma risentiamo la Boldrini e gli Eco Rifugiati, dai. Però questa figura si sta imponendo sempre di più, l'eco rifugiato, la persona che appunto a causa dei cambiamenti climatici e di tutto quello che ne consegue è costretto a scappare perché appunto non ha più di che vivere. Ragazzi, ma roba da matti, cioè gli eco rifugiati perché ci sono i cambiamenti climatici, accogliamo pure quelli, dai. Alessio da Milano, vai Alessio. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. La serata aveva offerto tanti spunti, ma torno sulla la domanda iniziale, quella che avevo fatto telefonando. Volevo sapere da lei ed eventualmente dallo suo simpatico collaboratore che differenza c'è fra le ruspe di Salvini, che abbattono le baracche rom, e le ruspe di Netanyahu, che abbattono i villaggi palestinesi. Grazie. Beh Alessio, però ci sono, rispondi tu, va, perché no, ci sono un po' di differenze, diciamo la verità. Uno potrebbe essere affascinato dal fatto di paragonare le ruspe israeliane che abbattono i villaggi eccetera alle ruspe di Salvini sui campi rom, però francamente come si fa a paragonare la situazione dei rom in Italia con la situazione che si trascina da tantissimi anni, certo, tra israeliani, quindi, e palestinesi, dai. Israele ha diritto di difendersi ed esistere, l'Italia no. L'Italia no, cioè però non si può paragonare la difesa israeliana, cioè circondata da paesi arabi che teoricamente e anche praticamente vogliono distruggerla, all'Italia in pericolo per rom ed immigrati. Francamente non me la sento di fare questo paragone. Dai, su, poi ci sta che nelle battute, non mi sembra, nelle vignette, che i rom abbiano dei missili, non mi sembra che i rom costruiscano degli viadotti. Però è vero come dice Alessio che magari ogni tanto Israele se la prende. Ma sono due temi talmente diversi. No, ma sono diverse, dai, sono due cose diverse, Alessio. Perché le paragoni? Spiegami perché le paragoni? Perché le paragoni? Per polemica, ma va bene. Aspetta, vengono abbattute con estrema tranquillità, cioè non si va a vedere se chi c'era dentro, di chi era, perché. Ma chi gliel'ha detto? Butta giù tutto. Ma chi gliel'ha detto? Nessuna distinzione. Diciamo, lo fa per motivi di difesa, non è che non lo fa così a cazzo di cane, cioè lo fanno per motivi di difesa. Qualche volta si commettono degli errori nella difesa, per carità. Cioè, comunque io voglio capire perché paragoni Israele all'Italia. Perché fa polemica. No, non paragono Israele all'Italia, paragono un certo comportamento di una certa parte del mondo, che comunque Israele ha tutti i suoi diritti, può fare. Però tu dici anche noi ci dobbiamo difendere. Secondo me sì, dai rom anche noi ci dobbiamo difendere in maniera. Però, scusa, non puoi paragonare la necessità che Israele ha, discutibile poi nei modi eccetera eccetera quanto vogliamo, io non la discuto mai come sai, con il pericolo rom in Italia. Adesso francamente non è la stessa cosa. No, io invece no, scusami, io metto a confronto il che cosa viene fatto, non metto a confronto i ma che cosa viene fatto? È evidente che anche là ci sono le ruspe, ci sono le ruspe contro eventuali terroristi, anche sugli insediamenti, per carità, ma quello no, che può. Ma no, io non so se servono, ma sono due situazioni che non si possono paragonare, dai. Potrei fare polemica tranquillamente su questo con Parenzo, ma non la faccio perché è un minimo saprei neanche cosa dire, perché è una cosa totalmente diversa, non c'entra niente. Vabbè, andiamo a Latina, dai, Pierluigi. Vabbè, Alessio, grazie, ciao. Pierluigi, vai. Pronto. Dimmi caro, dimmi. Senti, volevo dire a Parenzo, ma che cazzo dice? Quelle mignotte che stanno sulla Lettonense, non sulla Volpina. Ecco, nessuna, ecco il miserabile. Neanche una, io le conosco. Perché 40. Lei è stato lì, tranquillo. Le conosco, fai 40. Parlare, ecco il miserabile. Fai parlare miserabile. I testimoni diretti, fai parlare i testimoni oculari diretti anche, forse. Ma direttissimi, io ne conosco 40, abitano tutte da Diabolik. Ne fosse stata una che abitano? Che c'ha il magnaccia, nemmeno una. Prima andavano nei night club, mo che c'è la crisi non c'è più una lira e manco quelli che vanno a mignotte nei night li spendono, vanno per strada. Però nessuna di quelle, almeno della quarantina che conosco io, nessuna di quelle 40 ne conosce. Conosce 40 mignotte, ma che cosa gli vuoi dire? Ma che cosa? Non ho capito, ma qual è il problema se conosce 40? Ma se conosce 40 mignotte, divertiti, paga e divertiti con le sfruttate, bravo, e vantati pure. Bravo, siccome non ti dà nessuno, devi pagare. Ma io sono vissuto 22 anni a fianco. A chi? Ma ai zingari. Io ho vissuto 22 anni a fianco ai zingari. Ne conosco 300, ne salvano 3 e due di questi, uno è morto e due stanno in galera, gli altri sono tutti delinquenti. E che devi fare? Le mignotte non sono nessuna sfruttata, Lorenzo, ma parla delle cose che nessuna conosci, sfruttata, non delle nessuna che sfruttata di quello qua. Che è conosci tu e per quello che puoi sapere tu, il che sociologo sei un poliziotto, che sei un poliziotto, che sei per lui? Perché? No, ma che sei un poliziotto, come fai a sapere che sicuramente non sono sfruttate queste troie? Perché le conosco tutte e quattro. Troie, mignotte. Almeno 40 conosce. Le conosco. Su. Con lui parlano tutte. Quelle che stanno sulla Lettonense, ce stanno. Si diverte, fa i suoi comodi, le paga e se ne va a casa con la patta chiusa. Dai, ma non capisco, perché devi dare quest'idea? Perché gli dai del miserabile? Perché sulla sono stato. Pierluigi, tu vai a puttana e le conosci perché ci sei stato? No, le conosco perché sono amico di quello dove loro abitano. Dove mica tutte insieme abitano, 40 persone, 40 mignotte tutte insieme abitano. Ma questo c'ha una specie di... Che c'ha? Non è una bungalow dentro casa sua, l'ha costruito un po' e li affitta tutti alle mignotte. No, ma scusa, non ho capito, ha costruito dei bungalow dentro casa sua. Ma è un business normale. Ha costruito dei bungalow dentro il giardino di casa sua, c'ha un bel... Ma ti rendi conto? Ma la gente si arrangia, cazzo. Mi dia l'indirizzo che faccio un bel pezzo. Ma perché? Perché la Diabolik, non ti dico come si chiama di nome, perché lascio... Guarda, si chiama Diabolik, questo è che prendo nota. Cerchi Diabolik, te lo dove sulla Pontina è questo? Campo di carne, sì, sì. Beh, omen anche Campo di carne Diabolik. Campo di carne, sì, lo vedi quando fai la Pontina. Segna un po' e vai lì e informate un attimo. E non capito, c'è questo signore che si chiama Diabolik, il quale ospita in alcuni bungalow, soprannominato Diabolik, ospita in alcune dentro il suo giardino, ha costruito dei bungalow dove ospita le mignotte, giusto? Sì, certo, sì. Ma queste qua lavorano in proprio, certo, sono start-up. Lavorano tutte in proprio, nuova. Quelle che almeno 40, guarda, ma poi che ne sono passate anche altre, perché ogni tanto se ne vanno e ritornano, saranno, guarda, alla fine in 10 anni saranno più di 100 che sono passate di là. Queste lavoravano tutti nei night tra Anzio, Nettuno, Terracina, San Felice. E senza essere sfruttate andavano al night, davano la percentuale a quello del night, che metteva al night. Beh, è normale, normalissimo, certo. È normalissimo, cioè, normale, ma è vita normale. Parenzo, pensa che tu adesso, siccome al night non c'è più una lira, non circola più denaro, stanno per strada e cercano un po' si sono organizzate pure bene, perché c'è chi le porta col pulmino, c'è chi, insomma, chi le porta col pulmino? Si sanno anche difendere da loro, non è che non si sanno difendere. Ma chi le porta col pulmino ste mignotte? Uno che almeno uno, un paio ne conosco che hanno il pulmino che le porta a lavorare, insomma ogni tanto le vanno a prendere. Cioè si fanno pagare 5 euro? O se le trombano, insomma, dipende. Cioè, chi lo fa pure mi piace un mondo così a voi. Anche quello è un buon servizio. Insomma, se tu c'hai un commercialista che gli affitti casa, che fai? Non ti fai fare la denuncia dei redditi, la scalita della fitta? Non è esattamente la stessa cosa, però, caro professore. È un bel ambiente. Ambiente di maiali. Ha ragione il professore, in questo caso. Scusami, Luigi. Ma c'ha ragione il professore. Secondo te, quello che costruisce i bungalow dentro il giardino, come si fa a Diabolik? Come si fa a pagare da queste qua? Ah, De Boris si fa pagare 250 euro al mese più una trombata quando dice lui. Beh, siamo a parte veramente... che sarà ultimamente che cosa più di Viagra che d'affitto, però sì, sì, va a turno. De Boris tromba e incassa 250 euro al mese. Beh, è normale secondo lei questo? Vabbè, fate passare, però ragazzi miei, io non voglio sembrare bacchettone veramente perché non lo sono, ma fate passare per normale cose che normali non sono. Lei telefona 800-2400-2400, ci parla di un signore che è soprannominato Diabolic e già qui ci sarebbe da discutere, ma non discuto. Ma lei che ha campo di carne, a casaccia sua, costruisce dei bungalow. Ma dai, ma non si può, ma non è normale questo. Vabbè, Pierluigi. Ma guarda che non è che l'ha fatto. Pierluigi, fermo là che dopo ti riprendo, fermo là, fermo là, fermo là. Oh, make me over. Amici miei, lo abbiamo appoggiato in tutti i modi in questi giorni per la porcheria che gli stanno facendo, perché io sono convinto che sia una grande porcheria. Il presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, buonasera, buonasera. Buonasera. Presidente, come stai innanzitutto? Beh, adesso meglio, dopo alcuni giorni che ho vissuto come un lebbroso, perché quando uno sente poco poco che sono uno stragista, uno che vive, che è costretto, che è stato costretto nella propria vita a stare, andare ai comizi col giubbotto antiproiettile, che vive alle processioni, che vive da 12 anni come un prigioniero con i vetri anti-Kalashnikov di 4 centimetri. Cioè ti hanno fatto passare propria. Ti hanno fatto passare come un peggio di un mafioso, diciamo. Sì, peggio di un mafioso per non avere detto nulla, perché anche nell'accusa inesistente dell'Espresso lì c'era il mio silenzio. Sì, cioè, esatto. Non c'era manco la mia voce, per esatto. cui uno è colpevole pure di essere assente in una colloquio telefonico. Sì, no, questo ecco, è ma tu quella frase là, adesso, spieghiamola un po'. Non l'hai mai sentita? Non l'hai mai presidente. Sentita quella frase là del signor Totino? Quella frase non può esistere perché l'ha spiegato il procuratore voi, il procuratore Agueci, tre volte lo vuole, due volte Agueci. Sì, sì. Oggi il procuratore Lari, perché poi hanno insinuato, forse alla procura di Caltanissetta. E interviene il procuratore Lari della procura di Caltanissetta e dice: non esiste. Ora io voglio spiegare tecnicamente, prima di avventurarci in altri ragionamenti che sono necessari. Io mi sono consultato con una serie di tecnici del settore proprio delle intercettazioni, eccetera, che dicono che se un'utenza telefonica è intercettata da un organo, è intercettata sempre. Mm. Quindi non è che ci sono vuoti. Se c'è un'intercettazione... Sì. Dalle ore X di questo momento fino alle ore fra qualche minuto c'è sempre la stessa intercettazione, non esce questo da. E dunque? Quindi tutti coloro che intercettano in quel momento quell'utenza telefonica hanno tutte le stesse cose. Ora non è che può accadere il miracolo che l'Espresso abbia una intercettazione che gli altri non possono avere, dica l'ora, il no, secondo, però scusi, il non minuto. Ho capito. Presidente, scusi. Dire. No, però non ho capito una cosa. Può essere accaduto. Che gliela data, dica l'ora, il secondo, il minuto, ma può essere la circostanza in cui quella telefonata, per fare le verifiche agli organi competenti. Cioè, ma siccome non ce l'hanno. Non ce l'hanno? Siccome perché non può esistere. E che può essere successo? Allora, ci sarebbero tutte le procure che indagavano su Tutino dal 2013 e dicono che non ce l'hanno. Scusi, presidente, allora che è successo? Diritto, che è successo? Che è successo allora? Com'è possibile che l'Espresso conferma attraverso il suo direttore di aver ascoltato questa intercettazione? Beh, oggi ha cambiato versione, dice, dopo l'annuncio del risarcimento di 10 milioni di euro abbiamo fatto della denuncia ha detto noi dimostreremo la correttezza del nostro comportamento. Ora qui non è che il problema della correttezza con il nostro comportamento dell'oro o il problema è se la cosa è vera o è falsa e se l'Espresso ce l'ha la tiri fuori e se non la vuole tirare fuori come non ha fatto sinora la porti alle procure, perché qui c'è un attentato a un organo istituzionale dello Stato a un organo persino costituzionale, perché la regione siciliana e gli organi della regione sono previsti dalla Costituzione italiana. Ma lei vuole far chiudere, presidente, lei vuole far chiudere l'Espresso? Assolutamente no, io voglio la verità e mi basta. Beh, 10 per milioni, la verità. 10 voglio milioni. Che la verità la conoscono gli italiani e voglio battermi per una democrazia compiuta in cui i poteri occulti non possono prendere in giro i giornalisti e fare cadere governi, mandare gente a fare suicidare delle persone innocenti che non hanno fatto assolutamente nulla. Scusi, questo vabbè, io però... mi batterò fino in fondo, perché non è più un problema mio, sì, però, sì. È un problema, scusi, dell'Italia, in che paese noi viviamo, se sì, viviamo però... in una democrazia compiuta. Cioè, Presidente, si fermi un attimo. Su questo ha ragione. Le prerogative però... costituzionali dei diritti della gente, scaderebbe. O no? Se ci sono, qui non è più manco il giustizialismo o il garantismo, sì, di una volta. Qui ci sono, sì, delle procure, sì, dei giudici, sì, che dicono che non c'è nulla, e c'è un giornale che improvvisamente pubblica una notizia non verificata, sì, e non contribuisce al chiarimento delle indagini. Dunque, 10 milioni sono pure pochi. Certo che sono pochi, perché io credo che poi bisognerà chiedere il risarcimento a nome del popolo siciliano, cioè una volta accertata la verità, io credo che anche la regione siciliana dovrà farsi risarcire per i centinaia di milioni di euro di danni che ha subito da questa, senta, da Presidente, questa, senta, da questa pubblicazione. Presidente, io le chiedo solo una cosa, siccome nei giorni scorsi si è parlato, anzi oggi si parla di un mese e poi lei si dimette, vogliamo dirla una volta per tutte, lei si dimette sì o no? Io non mi posso dimettere. Nemmeno fra un mese, dunque. Nemmeno fra un mese. Se mi mettessi su questa motivazione, sì, darei non solo ragione ai miei carnefici, sì, a coloro che hanno ordito un complotto nei confronti di un presidente della regione siciliana che ha fatto miliardi e denunce, sì, per miliardi di euro di truffe alla regione siciliana. Dunque non si dimette. Il sindaco ha contribuito all'arresto di centinaia di mafiosi, perché o è vero che io vivo come un sequestrato da 12 anni, sì, e sono condannato a morte della mafia, o è vera questa cosa, bisogna chiarirla e io mi batterò fino in fondo. Dunque, ma lei... non è più un solo problema mio. No, ma questo l'ho è capito. È un problema italiano quello che questo assistendo. L'ho capito perfettamente, però la cosa è, siccome si dice io faccio alcune cose per il programma, ho letto oggi, no? Due, tre cose, eccetera, e poi diciamo alcuni l'hanno voluta interpretare in un certo modo. Io ho detto semplicemente che su questa motivazione non mi dimetto, che facciamo alcune cose che salvano la Sicilia in questo momento dal default greco, che trascinerebbe persino il rating dell'Italia, perché questo regalo al popolo siciliano e al popolo italiano non glielo posso fare, perché io sono un uomo delle istituzioni, e dopo verifichiamo con la politica. Però che decida, sì, è una cosa molto semplice. Però lei non però si dimette di sua spontanea. Ma manco per idea, guarda. Volevo dirti questo. Arriva fino alla fine di schifezze ordite da chissà quali potenti. Però scusa, che vengono ignobilmente avallate da qualche parte politica, sì, per ragioni machiavelliche legate agli interessi politici. Presidente, però voglio dirti questo, Crocetta, scusami, uccidere Crocetta materialmente un uomo per ragioni meramente elettoralistiche. Ma chi ha fatto questo? Hai ragione, ma chi l'ha fatto questo? Non mi sono suicidato perché è intervenuto un procuratore che è una persona per bene, e ringrazio e sono felice che a Palermo ci sia un procuratore apolitico che altri procuratori, altri scusa giudici, però che si battono, sì, per la verità e tutelano. Ma veramente pensavi di ammazzare? Io oggi sarei un uomo morto. Ma veramente pensavi di infancato e chissà, forse fra qualche anno sarebbe scoperto che era stato assassinato un innocente. Però scusami Rosario, veramente pensavi di ammazzarti adesso? Diciamo, siamo sì, sì, io ho per tutta la giornata, l'avrei fatto persino immediatamente alla notizia, poi mi ha salvato un mio amico avvocato. Come? Mi hanno salvato un avvocato e dei giudici, che è venuto a prendermi in albergo, mi ha portato nel suo studio e ha detto: il procuratore sta verificando la notizia e vedrai che uscirà la bufala. Perché ma come pensavi di ammazzarti? Scusami, come pensavi di ammazzarti? E io ho creduto in quelle parole, altrimenti già sarei un uomo morto. Ma come? Ho vissuto come un lebbroso per due giorni, piangendo, non mangiando, non dormendo. Terribile. Ma come pensavi? Alla fine, perché avevo paura persino di affacciarmi alla finestra, perché pensavo che qualcuno mi potesse guardare chissà come, oppure mi insultasse. Ho avuto paura di uscire di casa, è stato qualcosa di ignobile. Ma come pensavi? Scusa. Se non ci fosse stato un giudice. Sì, ho capito, certo. Che dicesse questo, io cosa sarei oggi? Una larva umana? Un uomo distrutto, disintegrato? È moralmente possibile tutto questo? Scusa, Presidente, su questo hai ragione, però voglio chiederti una cosa, Crocetta. Possiamo vivere in un paese così? Tanto è inutile. No, io voglio capire una cosa. Come... Posso chiederti una cosa solo al volo, Crocetta? Però la questa è d'accordo, hai perfettamente ragione. Rimane l'altra questione, cioè tu pensi che Lucia Borsellino, cioè il tuo ex assessore, non sia stato un buon assessore alla sanità, però. Questo non c'entra con la telefonata che non esiste. C'entra il fatto che Lucia Borsellino, per la tua giunta, non è stato un buon assessore alla sanità. Non e infatti vero, se n'è andata. Non è vero, e perché se n'è andata? Questa è la questione politica. Noi abbiamo sempre approvato gli atti di giunta. Ma allora perché se n'è andata sbattendo Lucia, la porta? Io stesso l'ho perché se n'è andata? Battaglie tipo quella Crocetta? quando la Lorenzin la schiacciava. La Lorenzin. Se io volevo che ma Lucia perché se n'è andata allora? Invece di fare la scuda a Lucia, so. Io avrei potuto benissimo dire bene, l'occasione è giusta, invece no. Ma perché io se n'è andata? Oggi le ho mandato un messaggio, non ti ho mai tradita. Non ti tradisco, non ti tradirò mai. Lucia è stata anche lei messa nella rete della menzogna, ingannata, e io capisco bene la sofferenza di una persona. E perché persona se n'è andata? Ingannata da chi? Che qualcuno possa aver detto quella frase e il presidente non abbia non abbia reagito. Questo mi pare normale. Ma però ma se n'è andata. Sia stata lasciata sola mai. Però scusami presidente, rimane il fatto che se n'è andata. Rimane il fatto che ognuno può percepire la solitudine come crede più opportuno. Scusami un attimo. E la solitudine non c'è stata mai. Scusami un attimo, ho fatto presidente. Denunce per centinaia di milioni di euro sulle truffe alla sanità. Sanità. Mi riferisco per esempio all'assicurazione, quella di 155 milioni che ho scoperto io e che ho, insieme a Lucia, Lucia addirittura si è dovuta trasferire nel mio ufficio per costruire insieme quella denuncia perché non si fidava dei suoi. Scusami presidente, il regolamento di Lucia, no, ma ho capito, va bene, né quello mio né quello della giunta, ma di un sistema di potere che fa presidente, sentire solo anche me. Presidente, scusami un attimo, in quei momenti in cui pensavi di farla finita, no? Però uno non può dire pensavo di farla finita, che facevi, a che pensavi concretamente? Cioè, No, pensavo solo al modo come farla finita. Che fosse veloce, ma non sei passato all'azione, sicuro che non fosse che nessuno mi potesse salvare. No. Pensavo solo al modo come fare rapido, visto che non possiedo armi, appunto. Non fa cose, non le amate mai le armi. Sì. E a questo punto dico come mi ammazzo, perché il tema era esattamente questo: come posso evitare che qualcuno venga a scoprire in tempo per salvarmi? Però, addirittura. Pensavo tutto questo proprio alle tecniche che dovevo adottare per evitare che c'ho i militari sotto casa, che c'è un mio collaboratore che ha una stanza sotto casa mia, in un appartamento sotto casa mia, per fortuna potesse identificarmi, come oscurare tutto questo in modo tale che non avvenisse. Per fortuna non è facile suicidarsi, No, guardi, nel mio caso sì, però poi alla fine ho capito come poteva avvenire in modo facile. E come? Beh, lasciamo perdere, non vorrei incitare tanta gente che magari perché poi scattano i meccanismi di emulazione. No, bisogna essere delicati in questo, no, io sono molto attento alle parole che possono ascoltare gli altri. Però avevo trovato un sistema. Avevi trovato un sistema. Ma meno male che non è successo nulla, meno male. No, la cosa importante che hai detto prima è che non penso nemmeno lontanamente di dimettermi. Se il PD ha correggimi se sbaglio, se il PD ha coraggio, cosa deve fare il PD locale, quelli che ti avversano? Presenti la presenti la mozione di sfiducia. Gli mancano gli atti alla storia della Italia. Gli mancano gli atti, come si è massacrato un uomo che non ha compiuto nulla e che ha tentato di fare cambiare un attimo. Deve rimanere alla storia. La storia ci giudicherà tutti. Sì. Un attimo solo, Rosario, un attimo che c'è la pubblicità e poi torno con gli ultimi due minuti con te. 800 24 00 24, con noi il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. Lasciati un parento e alla defecarsi non ci penso. La Zanzara. Allora, siamo con il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi, più intenzionato che mai a non mollare la presidenza. Domanda rapida e risposta. Non mollare la battaglia, perché guarda, io delle poltrone non ho niente. Ma la presidenza, non ho soldi, non ho aziende, non mi interessa il potere. grazie a Dio, quando me ne andrò via da questo posto, dirò, siccome me, so, uscio, per citare Cervantes, sì, Cervantes. E, siccome me ne vado nudo come sono entrato, vuol dire che ho governato come un ancio. Beh, questa è bella, non è male. Senti, io ti chiedo una cosa, ma allora facciamo un annuncio, resti fino alla fine della legislatura? Sì, sei intenzionato? Io resto fino in fondo. Poi, fino in fondo. Se qualcuno mi vuole cacciare, lo faccio. Lo faccio. Si assuma la responsabilità. Però scusa se torno a bomba. Di fronte alla storia. Cioè, se il PD ti vuole cacciare, se il PD, diciamola chiaramente la cosa, se il PD lo ti vuole. Lo faccio in modo istituzionale, perché. Ecco. Di Faraone che pensi? Di Faraone che pensi? Che vuole la tua poltrona? Faraone è l'uomo, diciamo, più forte del PD in Sicilia in questo momento. Ma guarda, io di faraoni moderni non me ne intento. Ho studiato un po' di storia egizia, mi piace, quelli sì che mi piacciono tanto. Ma vuole la tua poltrona, sì o no? E che ne so io, l'hai detto. Cioè, una persona normale in genere vista da fuori direbbe, visto che questa è una poltrona dove sette presidenti della regione sono finiti in galera, sì. Uno è stato ammazzato, un altro lo stanno uccidendo in diretta, io non lo so perché questi hanno tanta voglia di... Ma tu sei ancora nel PD, sì o no? No. Io sono nel PD, però? Fino a prova contraria. Ma... E quando il PD sfiducia un po' più scritto, prima lo deve spegnere, no? E dunque sono il PD fino a quando qualcuno non decide di espellermi. Ma siccome secondo lo statuto del Partito Democratico uno può essere espulso solo se condannato, e siccome io fino a prova contraria non ho nulla, dopo anni che sono stato sindaco, sono stato deputato europeo, e non posso diventare un criminale solo perché lo dice un giornale, allora il PD decida sulla base dello statuto. Ma ha sbagliato anche Mattarella subito a fare delle dichiarazioni. Mattarella ha fatto una ti ha lasciato solo, però affettuosa rispetto a Lucia, che conosce sin da ragazzina, è una storia. Un'altra cosa. Però molti sono stati frettolosi, dai, anche Mattarella, Grasso, subito. Le istituzioni sono state cosa molto frettolose. Una volta gli uomini di Stato parlavano. Quindi anche Mattarella. All'anno. Adesso parlano tutti. Appunto. Il presidente, per favore, non mettiamo in campo il presidente, che io so che di essere una persona buona, corretta. Però non ti ha chiamato. Però Crocetta, scusi. Però non ti ha chiamato. Però lui da una vicenda personale. Terrificante, mettiamoci nei panni di tutti coloro che hanno parlato, che leggono una cosa così terribile. Però la questione politica di fondo. Alfano credo che lo facesse a nome del governo, l'indomani ha rettificato. E Renzi ti ha chiamato? Renzi ti ha chiamato o no? Ma guarda, perché mi deve chiamare Renzi? E poi voglio dire, il Presidente del Consiglio. Io ma ti vuole fare fuori? Dai, si legge. Io sento bisogno, sinceramente, di chiamarlo. Che devo chiamare? Si legge che ti vuole fare fuori. Dimettiti. Appunto. Perché sente una cretinata, io che ci posso fare? Beh, la pensi. Però la questione più importante non è questa, Crocetta, perché oggi io ho letto l'intervista a Repubblica di Lucia Borsellino. Lei dice, fin dal primo giorno, e questo è il punto, c'era un clima di ostilità e di diffidenza contro di me. Accadevano cose alle mie spalle delle quali il Presidente non mi ha detto. Questo è il punto. Lucia Borsellino, perché io l'adoro. No, ma io parto da quello che... Uno, se sin dal primo giorno sente un clima di ostilità, se ne va l'indomani mattina. Cioè, e invece? Invece è rimasta. Una settimana prima... Siamo stati a cena insieme e fino alla sera prima delle dimissioni mi ha detto che non ce l'aveva con me, credo che il clima di ostilità non e che le è successo allora? Non è stato io, ma ben altro. E che è successo? No, ma lei dice il Presidente non mi ha detto che niente. Io che continuo a avere io che l'obiettivo era molto chiaro, far cadere prima Lucia Borsellino e poi far cadere me. Ma chi è che ha, io questo voglio capire, lei ha parlato di servizi, ha parlato di un complotto, chi c'è non dietro? Ho parlato di servizi. Beh, sì. Ho parlato del rapporto che il giornalista millanta con i servizi, addirittura una volta mi fece un articolo Saro il terrorista dicendo che io avevo ricevuto praticamente un rappresentante dell'Associazione Italia-Palestina con la quale abbiamo concordato in quella questione un aiuto per medicinale ai palestinesi e che io avevo incontrato un famoso terrorista. Ora essendo questa un'associazione accreditata dal governo, ma vuol dire chi, il puparo? Allora il governo che accredita terroristi in Italia, no, ma il puparo poi, chi è? E poi dice, scusi, che questa cosa avrebbe creato l'inimicizia del governo israeliano, vabbè, vabbè, e l'ostilità di tutti, vabbè, adesso, i servizi occidentali. Ma non deve credere che tutti i servizi occidentali si stanno preoccupando di questo pericoloso terrorista che c'è in Sicilia. Ma veramente siamo o alla paranoia, ma non andiamo nel dettaglio, o alla follia. Io invece penso che ci siano stati dei poteri deviati forti, che sono i poteri di sempre, cioè? Quelli che hanno massacrato in passato magistrati, che ma chi sono? Chi sono? Quelli che hanno fatto fuori personalità poteri come deviati. Pio La Torre e altri, vabbè, ma... quelli che hanno sempre creato i dossieraggi finti, ma poi accettati, ma chi è sta gente, dai però? Tribunali che non gradiscono questo governo, perché questo è un governo che sta tagliando la mangiuglia, il malaffare. D'accordo, ma allora l'Espresso che è complice oppure è solamente un mezzo? Questo è il punto. Guardi, io vi voglio rifiutare di pensare che un giornale di questa portata possa essere complice. Io penso che il giornale ha preso una bufala, però siccome questo dal punto di vista dell'immagine del giornale non è tanto bello, allora in qualche modo sì, oggi non lo possono dire, come fanno oggi, dice, non lo possono noi dire. Il comunicato di oggi non insistono più sulla esistenza, sì, del dossier, dicono dimostreremo la correttezza, sì, del ho capito, nostro okay, giornale, ma detto. La correttezza del giornale che se ne frega, sì, cioè sì, la correttezza del giornale in questo momento è una e una sola, è vero, non è la vero? Procura e dare le carte o dare le informazioni necessarie senza avvalersi, sì, del diritto che hanno i giornalisti di non rivelare la fonte e contribuire a sventare un colpo. Senta, un'ultima cosa Presidente, ma la storia di buttafuoco dello sbiancamento anale, lei ha querelato pure il fatto? No, per questa roba. Beh, certo, scusi, ma si può arrivare a tanto? Io mi vergogno persino a trattare argomenti del genere. Come, scusi? Perché un omosessuale deve essere così dilaniato? Un giorno perché è omosessuale, un giorno faccio la finta di mafia, un giorno non sono capace, un altro giorno sono allegro, un'altra volta io sono una persona che è stata eletta dal popolo siciliano e che ha dedicato tutta la propria vita agli interessi degli altri. Ho il diritto di essere rispettato. No, ma lei l'ha fatto. E non l'ha può essere consentito a nessuno di ridere in questo, cioè narrare fatti assurdi. Cioè, quando Buttafuoco dice che il primo giorno della mia elezione io ero a Castel di Tusa, che non c'era perché ero a Palermo, a Palermo in un albergo palermitano, sì, e mi affaccio alla finestra, molto teatrale anche, sembra persino ginettiana, allora? Come scena tratta dal balcone di Jean Genet, uno si affaccia, sì, alla finestra e c'è Antonio Presti, uno dei più grandi mecenati del mondo contemporaneo, dal punto di vista dell'arte, che che dice scendi bottana, affacciati bottana. Ma secondo lei questo è un linguaggio che può andare sui media? Io mi vergogno. Ma questo è un linguaggio che può usare un giornalista? Ma questi sono argomenti che può usare un giornalista per diffamare, denigrare? Perché guardi, hanno parlato dello sbiancamento, qualcuno, scusi, sì, questo è importante quello che sto dicendo, sì, lo conservi perché potrebbe rimanere persino alla storia di questo paese, cioè? Se uno si va a sentire quello che ha detto un testimone di giustizia, un collaboratore di giustizia l'anno scorso al Tribunale di Firenze in aprile del 2014, sa cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Che Crocetto è stato condannato a morte dal boss Daniele Emanuello, perché io quando ero sindaco ho licenziato la moglie del boss. E allora alla domanda del PM il collaboratore risponde: e si può revocare questa condanna a morte? No, è come una sorta di fatua. Di fatua, sì. Cioè bisogna, la può revocare soltanto chi l'ha fatta. E siccome chi l'ha fatta non è morto, non la possono revocare i suoi picciotti. E andiamo avanti. No, però scusa, come deve essere ammazzato? Sa come è stato, come ha detto che mi debbano ammazzare? Come? Esattamente nel modo con cui stanno facendo. Prima bisogna denigrarlo, renderlo un pezzo di merda. Per cui la storia. Poi, quando è per tutti un pezzo di merda e non ha più nessun ruolo politico, gli tolgono la scorta, lo dobbiamo ammazzare in modo tale che sempre un incidente, durante un incidente stradale, una rapina, eccetera, in modo tale che non possa apparire neppure come un eroe antimafia. Però io a questo non ci posso stare. e credo che non ci possono stare le persone sinceramente democratiche. Però, Presidente, scusi un attimo. Che invito alla ribellione. Lei mi sembra che vuole fare un nuovo movimento. Invito alla ribellione per ripristinare in Italia una democrazia vera. Che ne so, ma lei vuole fare un altro movimento politico? Che vuole ma fare? Ce l'ha già il megafono. No, io non voglio fare nessun movimento politico. Voglio solo dire che sì. C'è la necessità che tutte le persone per bene che credono in una cultura veramente liberale democratica, al di là dei partiti, al di là dei movimenti, si cominciano a organizzare nel nostro paese per mettere fine allo strapotere di alcuni gruppi. Vabbè, questo non si capisce. Al di fuori delle istituzioni dettate dalla democratica del nostro paese. Presidente, scusi, ma allora chiariamo una cosa. Lei lo sbiancamento anale non l'ha mai fatto? Eh? Lei lo sbiancamento anale non l'ha mai fatto? Ma madonna, ma perché lo dovevi fare? Cioè, uno che da bambino adorava la bronzatura integrale, da bambino. Oh, scherziamo un attimo, dopo tante cose serie. Ma che scherziamo, scusa. Scherziamo. Senza che io abbia voglia di scherzare. Ma un po' sì, un po'. Visto che lei giustamente mi vuole anche riportare alla normalità dei giochi. Ma appunto, la normalità. Questo, però si può dire questo di un presidente. Ma se lo dicessero a Maroni, se lo dicessero ad altri, invece si può dire perché io sono omosessuale, scusi. Non è per quello. Ma no, perché lo dice lei, perché chi lo ha fatto, l'ha detto per questo, perché se io ero un eterosessuale come tanti altri, magari finto. Però è anche lei che in questi magari sposato apparentemente per difendere quello sicuro, la rispettabilità borghese che io non ho. Addirittura hanno detto che lei io col mio medico ero amante, ma a parte il fatto, dico, voglio dire che a me gli uomini così non piacciono, anche perché è un po' macio, eccetera. Un po' macio, molto macio. Molto voglio macio. Dire pasoliniano, ginettiano, che c'entro con l'estetica borghese? Cioè, ti piacciono i proletari, non i borghesi, insomma. Ma che so, quando ero ragazzo mi piaceva molto questo Pier Clementi, che era un uomo così, di bella di giorno, che è un provo. Ti piacciono i Ninetti Davoli? Cioè, ma un amore così, un simbolico, una cosa. Ti piace Ninetto Davoli? E poi mi appassionava molto questa immagine alla Ninetto Davoli, di un passato poetico che ama i borgatari. Che c'entro io con i borghesi? Non sono né di origine borghese, né lo sono mai diventato, né mi piacciono i borghesi, non piace neppure. Scusa, ma Tutino è un bandito o no, secondo te, Tutino? Il tuo Tutino è un bandito o no? Sembra di sì. Guardi, nella propria vita normalmente di tre persone sicuramente ci si fida. Il proprio confessore è uno che me l'ha combinata, che quando ero praticamente ho detto che la mia omosessualità era un dono di Dio, mi ha quasi scomunicato, poi le ha detto Paolo. E poi? Poi dico, voglio venire, è venuto il Papa che ha detto altre cose poi? E abbiamo fatto pace. E sono andato pure in chiesa a confessarmi di nuovo da lui. Poi del proprio medico mi ha combinato di tutti i colori, voglio dire. E del proprio avvocato, spero che non mi tradisca pure il mio avvocato, perché veramente sarei. Io non frequento nessuno. Guardi, ti ha tradito, Tutino ti ha tradito. Non mi fido di nessuno, però spero che almeno quest'ultimo mi rimanga fedele. Tutino ti ha tradito. Se non altro perché deve prendere la percentuale sugli 10 milioni di euro. Ma Tutino ti ha tradito o no? Allora sì, ti ha tradito. Oggettivamente sì, se le cose che si dicono sono. Ma quella frase l'ha detta o no secondo te? L'ha pronunciata? Ma io non l'ho mai sentita. No, ma ne ha dette altre però, scusa. Sinceramente. Io non so, guardi. Scusami. Io sono una persona che non utilizza mai questi argomenti. Sarebbe persino facile in questo momento dire prendo le distanze. Ma perché? Per massacrare poi un altro uomo? Io sono un garantista. Io sono un uomo. No, però quello che emerge che è sempre stato garantista. Che c'è, Tutino? No, voglio sono dire solo a Crocetta. Che decidono e noi non ci possiamo permettere. Al di là di quella telefonata che non il Vangelo dice, e io che sono cristiano dico. Quello che dice il Vangelo, i peggiori tra di voi saranno quelli che giudicheranno. Io non giudico. Non giudico nessuno e non odio nessuno, non odio neppure questi dell'Espresso che mi hanno combinato questa cosa. Va bene, però Crocetta. Al di là della telefonata, che coloro che l'hanno fatto in malafede vengono persino perdonati e illuminati da Dio, che smettano questo orrore. Al di là della telefonata inesistente, però per la giustizia, che, un'altra, che non è va bene, Crocetta, però voglio dire solo questo perché di è importante. Che c'è? Un'ultima cosa. No, poi quella basta. Cosa importante è che al di là della telefonata inesistente, a sto Tutino gli stava sulle palle, però, per dirla schiettamente, l'assessore Borsellino. Questo è un dato, cioè. dalle telefonate, quella che non esiste, d'accordo, ma da altre sembra, perché si capisce che al signor Tutino non gli stesse molto simpatica. Non è che possiamo passare da una cosa così, cambiare argomento così, così cosa, voglio dire, dalle telefonate dell'orrore stragista alle accuse dell'orrore stragista. Vabbè, alle cose, ma l'impressione, gli stava simpatica o no, sta assessore, a Tutino? Lo scenario del panorama nazionale. Tutino ha un linguaggio indecente, inaccettabile, e la poniamo lì. Vabbè, presidente, auguri, mi però raccomando. Scusa, di strage, mi pare che è un'altra cosa. Ma questo Martino, come lo giudica lei, questo qua che ha fatto l'articolo, che era un suo... come si chiama, no, Martino? Non è, io so che l'articolo... Messina si chiama. Non Martino, ma Piero Messina. Piero Messina, scusa. Che ha scritto che io frequentavo i terroristi. Perché è uno dei 21 giornalisti che ho licenziato. Beh, perlomeno per legittima suspicione uno dovrebbe rifiutare di fare l'articolo, perlomeno un giornale, chiedere, non chiedere a uno che è stato licenziato da un presidente. Non doveva fare l'articolo, articoli, cioè, su di lui. Ma secondo lei l'ha voluta colpire? Ma non lo so che se lui l'abbia voluto fare, eccetera. Però, insomma, se uno si legge, ci sono bellissimi saggi di Freud. No, lasciamo perdere i saggi. Ci sono tre saggi, molto divertente, che si chiama L'inconscio assassino. Cioè? Che dice, guardi che bella sta frase. Supponiamo che in Cina esista un ricchissimo mandarino dalla cui morte voi ne ricavereste delle fortune immense e che con solo desiderio lo potreste uccidere. Voi, se io vi dicessi che potreste mai pensare di ucciderlo, tutti quanti voi direste di no. Ma Freud dice, non vi assicuro che non vorrei essere nei panni di quel mandarino. Lei pensa che una persona che è stata licenziata, che abbia avuto uno scontro con me, sia pure in modo inconscia, non abbia tutta una serie di ragioni e di sentimenti per colpirmi o per una specie di demonio? Non lo so, questo lo dice lei. Grazie presidente, a presto. Grazie. Resistere. Pubblicità a voi. La Zanzara. E dopo questa lunga intervista a un personaggio che però è stato il personaggio centrale delle ultime settimane, diciamo la verità, il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, ospite alla Zanzara in diretta qui, ci ha parlato di tutto e soprattutto ci ha detto che non si dimette fino alla fine, altro che notizie che sono circolate oggi, fra un mese mi dimetto, cioè il PD vuole, mi sfiducia alla Regione. Noi in questa battaglia, poi del resto ce ne fottiamo, non sappiamo come ha governato la Sicilia, alcuni dicono male, altri bene, e noi in questa battaglia un po' nel nostro piccolo l'appoggiamo, perché insomma dai, se c'è stata una porcheria nei suoi confronti. Però io ritornerei su Diabolik, caro Parenzo, perché la vicenda di Diabolik, del signor Diabolik, che è uno che ospita... Questo imprenditore sostanzialmente, imprenditore, no? Sì, che riesce a sfruttare, diciamo in maniera positiva io direi, il lavoro delle prostitute offrendo loro rifugio, vero Pierluigi? Ci chiamava da Latina. Certo, come rifugio? Offrendo una casa, un tetto. Certo, si fa pagare, Bungalow, però da qualche parte, dai. Ma perché? Ma non mica costruiti male, in muratura, mica so baracche. Scusami, per Luigi, abusivo. Però ragazzi, ma io veramente, ma mi fate abusivo, passare non per lo so, speriamo sarà non sia abusivo, no? Non te lo so dire se è abusivo, ma non credo, questo c'ha un sacco di c'avrà 10-15 ettari di terra, non credo che... Ma che uno costruisce dei sulla propria terra. Scusami, anche per ma tu sei andato... In Italia ci sono delle leggi Pierluigi, per costruire... Raccontamela tutta però, tu con queste prostitute, una di queste 40, una te la sei fatta, dai, su. Ma adesso. Io te una, che scherzi. Allora ci sei andato con queste qua? Ma guarda, l'ultima volta a Pasqua abbiamo fatto una grigliata lì sotto da una Diabolik. Grigliata? Un mucchio avete fatto, che grigliata? No, una grigliata. Ma è una porcheria, ma porcheria? Se mangia, se beve, se tromba e ci si diverte. Ma non ho capito, l'hai pagate oppure era una gratis? No, mai pagate. E perché? Che queste te fanno tromba gratis, le prostitute di Latina, scusa? A me sì, almeno, che ne so, se siamo amici, insomma, non è una cosa che... Ma metti il cappuccio o no? Certo, assolutamente. No, mi raccomando, Pierluigi. Mi anche in testa, eh? Scusa, io voglio capire, ma che lavoro fai tu, Pierluigi? Se si può dire, eh? No, non si può dire. Non si può dire. Sono impiegato statale, ma non si può dire che lavoro fai. Un impiegato statale. Un poliziotto. Maritato? No, non sono un poliziotto. Maritato oppure single? Sono separato, fidanzato, ma separato. Insomma. Cioè, separato, però ogni tanto deve fare qualche prostituta di Latina, insomma. No, c'ho anche la fidanzata, insomma, sono separato dalla moglie. No, sei fidanzato, ma ogni la tanto... La fidanzata lo sa che sì, vai... Sì, sì. Sì, certo, come no, non è... Cioè, che bell'ambiente, lo fai il richiamino. Non è gelosa, anzi. Anzi, delle volte, anzi. Delle volte, perché non vai stasera? Anche lei, insomma. Ah. Ma Parenzo, ma perché ti... Ma, no, però non dire che sono strano, io ti prego, perché non è così. Ma perché, scusate. Ma perché questo... No, non farvi passare per strano. Cioè, ricapitolo la situazione. Ma non ricapitola, Parenzo, ricapitola. Allora, ricapitola. Chiama un signore che sostiene che andare a Mignotte è meraviglioso. In più ci racconta la storia di questo signore diabolico. No, non ha detto che è meraviglioso. Ha detto che ci sono 40 prostitute non sfruttate, non sfruttate. C'è questo signor diabolico che fa l'imprenditore, che nel suo giardino ha costruito dei bungalow, e anche qui sembra tutto normale a voi, ha costruito delle casette per queste Mignotte, si fa pagare un piccolo affitto e ogni tanto pure le usa, ci fa l'amore, e a voi continua a sembrare tutto normale. In più ogni tanto fa le grigliate, fanno i mucchi con le grigliate, questo è divorziato e va bene, sono in tanti, è fidanzato, e con la consapevolezza della fidanzata ogni tanto va a fare le grigliate e il mucchio. Se tutto questo a voi, cari amici, sembra normale, beh, a me no. Ma è normalissimo. Non so, è normale. La vita di tutti i giorni, che non è regolare come la tua. La gente ha vite un po' più complesse. Ma non so se la mia è regolare. Non è regolare la ma mia. Ma tu è regolarissima. Sì, separato, vivi con un'altra persona, un altro bambino. C'è, cioè, la vita di famiglia. Fai una vita di famiglia normale. Adesso non è il caso. Cioè, stai lì mio, a fare bubù, a fare ciucciù, a portare il bambino con la cosa. Pierluigi non porta i bambini al parco. Non porta i bambini al parco. Va con le prostitute ogni tanto. Che cos'è? Che è un bel ambiente. No, ma questo l'ho capito. Però è Pierluigi, giusto? Cerca di darmi conforto, però, in questa mia... Certo, io faccio una vita normale, tranquilla, vado a lavorare, torno, mi vado a divertire, vado con queste amiche, vado con la fidanzata, esco fuori, vado a ballare, insomma, quanto mi pare, vado con mio figlio. Cioè, ma la fidanzata è consapevole che ogni tanto ti fai queste prostitute qua a casa di diabolico? È consapevole di tutto, delle amanti, delle mignotte che... Queste ragazze che ogni tanto qualche ammucchiata ci si fa, insomma, no, cioè pure le ammucchiate. Questo non credo. Se ne stanno 40, fai una grigliata, io diabolico Totonno. E almeno una decina di queste ci uscirà qualcosa o no? Beh, direi di sì. Se tu fai la grigliata con Gianni Morandi, Vasco Rossi e qualche cantante, se canterà, no? Queste sono Mignotte, se tromberà, mica sarà tanto differente la cosa. Beh, diciamo che il ragionamento è inattaccabile, Parenzo. Questo ragionamento qui è inattaccabile. Cioè, se tu fai una grigliata con, come fai tu di solito, il professor Cazzo Buffo, il politico, eccetera, eccetera, diciamo che molto probabilmente si parla della situazione politica attuale, Renzi, eccetera. Parlerai dei cazzi di Crocetta, esatto, di sbiancamenti anali, eccetera, eccetera. Sbiancamenti anali, allora, Pierluigi invece fa le grigliate con Totonno, Diabolic e 40 prostitute. È evidente che ci scapperà la mucchiata, ma mi pare. Sì, quello mi pare proprio una cosa naturalissima. Mi pare una cosa così complicata. Vabbè. Pierluigi, ti ringrazio di aver aspettato l'intervento di Crocetta. Vabbè, grazie a te. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Andiamo a... Beh, questa vedi è una di quelle giornate in cui mi dispiace quasi venerdì andare a chiudere la Zanzara, lo sai? Cioè, mi dispiace un po', è una di quelle giornate, poi magari domani ci ripenso, mi sta tutto sul cazzo, odio tutti, distruggerei tutto, bombarderei qualsiasi cosa, eccetera. Oggi è una di quelle giornate in cui mi diverto, ti vedo anche attivo. Ti è piaciuta la grigliata? Ti vedo anche carico. Ma non sei uguale, mai carico, non sei mai, ma cazzo. Mai. Emilio da Milano. Emilio Trucco, questo qua. No, Emilio Trucco abita a Roma. Non lo so, magari è Milano, che ne so. Vabbè, non è che chiama da Milano. Vabbè, Emilio, comunque non chiama in generale. Emilio. Che ne so io? Posso parlare? Essere? Sì, dimmi. Prego, vediamo che altre cose propone questo. Sento sempre la Zanzara, cerco di capire come funziona. Sì. La conosco da quando non eravate ancora insieme, però adesso trovo un po' esagerate le scemenze, passami il termine, che ogni tanto tiri fuori. Essere, come si può dire, meravigliato che uno considera una persona che va a Mignotte una persona meschina, lo è. Ma se ti piace così, se tu vuoi Mignotte, uno che va a Mignotte è un cretino. Ma lo dici tu, Emilio, che è un cretino. Sei un razzista. E mi limitano la libertà può funzionare nella misura in cui tu non sai che stai limitando la libertà di una donna. Ma di che parli? Mamma mia, ma parli come Parenzo. Mandate alla comunità nelle comunità di recupero a fare lezione, a parlare di massimi sistemi. La gente va a mignotto da quando esiste l'uomo, da quando esiste la donna. È una situazione ineliminabile. Quello che va eliminato è lo sfruttamento delle donne. Una che ha 13 anni, 14 anni. Che c'entra 13 anni, 14 anni? Se non vado con questa, limiti la mia libertà. Ma dai, non dire cazzate, non stiamo facendo l'esempio di 13-14 anni. È evidente che se tu vai con uno di 13-14 anni consapevole, sei uno che deve andare in galera, un criminale, ma su questo non c'è dubbio. No, ma che c'entra? Dai, su, ma che vuol dire? Stai facendo un esempio estremo. Stai facendo un esempio estremo. Noi stiamo parlando di. Non è un esempio estremo. Vabbè, allora. Il 90% delle donne non vuole fare le mignotte. Poi c'è un tipo che chiama il problema, sono le fighe. Ma io dico, le donne le chiamate fighe, non so, ma la questione anche di modo di esprimersi. Mi sembra tutto esagerato. Ma chi le chiede? Il modo di esprimersi di chi? Ma c'era il camionista là che diceva. Amico mio, noi abbiamo questo modo. Ma noi abbiamo questo modo di esprimerci. Noi un po' meno. Nelle caserme dilagava questo. Ma noi un po' meno. Gli ascoltatori un po' di più. Ognuno si può esprimere come vuole. Tu ti esprimi in maniera un po' così, diciamo, non particolarmente rude. Non particolarmente volgare, altri sono molto più espliciti. Questa trasmissione è fatta in questo modo. Non è che noi, infatti, ti stiamo limitando. Tu stai parlando in maniera normale. Nessuno ti ha detto sei uno stronzo, parla in maniera più esplicita, di le parolacce. Tu ti esprimi in questo modo. Perché devi rompere i coglioni a qualcuno che invece si vuole esprimere in maniera più chiara, più riconoscibile, o comunque si vuole esprimere come gli pare? Perché devi esprimere, devi bloccare questo tipo di modo di esprimere? Creatività, di creatività anche, sì. Tu stavi per non c'è nessun margine delle strade, che piove, c'è la neve, c'è il sole, c'è di tutto, come delle schiave. Ma non ti viene un po' da pensare? È una povera disgraziata. No, non mi viene da pensare. No. Bravo. A me viene da pensare. Emilio, dobbiamo essere chiari: lo sfruttamento della prostituzione, della schiavitù delle ragazze, ma io lo do per scontato. Ma allora vai sulla Pontina. Allora, ma che discorso è? Senti, la Pontina, ti ha appena chiamato, uno dicendo che conosce 40 mignotte, se gli dobbiamo credere è così. Ma così un poveraccio, dai, che ha bisogno di andare a fare la grigliata. Ma perché un poveraccio? Ma perché? Per me, magari sei un poveraccio tu che resti davanti con la tua mogliettina a vedere. Non ce l'ho più la mogliettina. Vabbè, ma quello che è. Per la terza volta. E lo da solo a farti le seghe a casa davanti ai film porno. Dai. Non è quello, ma almeno in tutto quello combinato, il meno rispetto. Minimo. Rispetto non c'entra niente. Quando vai a mignotte, paghi. Quando vai a mignotte, paghi. Quando vai a mignotte paghi per un servizio, punto e basta. Rispetto non c'entra niente. Pubblicità. Che tempi. La Zanzara. Ma io dico, le donne le chiamate fighe, non so, ma la questione anche di modo di esprimersi. Parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. Io devo ancora ritrovare il numero di questo numero uno assoluto. Fammelo risentire un po'. Parla di figa, per favore. Parla di figa, per favore. A noi non frega in casa di niente. È il modo in cui lo dice, capito? Sì. È il modo in cui lo dice che è straordinario. Ti prego, richiama. È tanto tempo che non risento questo numero uno assoluto. Chissà dove sarà adesso. Ti prego. Allora, c'è una notizia, praticamente una breaking news per la Zanzara. Ignazio Marino si scusa con la signora Lucia Rinaldi. Clamoroso al Cibali. Sì, clamoroso al Cibali. Ho perso la testa, dice, questa è la sintesi. Su Facebook, però senti, è vero, non avrei dovuto lasciarmi andare a quel commento. Vabbè, ma questo è scontato, solo tu sostieni che è una reazione che si può accettare, dai. Ma sì, ho detto che ha sbagliato, però... Sono molto sensibile quando si parla di vittime della Seconda Guerra Mondiale. Parlavo di mio padre, deportato in un campo di concentramento, questa è la scusa che era sensibile. Deportato in un campo di concentramento in Polonia, che raramente ricordo in pubblico, ma sentire urlare durante un momento di ricordo delle vittime dei bombardamenti mi ha fatto innervosire. Mi scuso per aver perso la calma. Chiede scusa la signora Lucia Rinaldi, che abbia avuto ospite alla Zanzara in apertura di trasmissione, incazzata come una belva, ha pure detto che Marino prima se ne va meglio è. Merita una riflessione questo. No, non merita una riflessione, diciamo. Si chiude questa vicenda con le scuse, non so quanto saranno accettate dalla signora Lucia Rinaldi queste scuse. Beh, a quel punto ce le faremo tutti quanti una bella ragione, però, eh. Allora, Giuseppe da Chieti, 800 24 00 24. Giuseppe, vai. Ah, aspetta, aspetta, voglio farti sentire una cosa, Parenzo. Voglio fare sentire a tutti, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, al grande popolo della radio, le imprese del signor Red Ronnie. Cosa è successo all'amico Red Ronnie? Sì. Cioè, si è perso a Ravenna. A un certo punto l'amico Ronnie, non so dove andare, si perde nella città di Ravenna. Ci sono segnaletiche sbagliate, eccetera, eccetera. C'è un po' una strada chiusa. Si incazza come una belva con il sindaco. Ma tutto inizia in questo modo. Cioè, è una roba, è una cosa kafkiana. Cioè, io non sto riuscendo ad uscire da Ravenna, non sto riuscendo a prendere, non riesco a prendere l'autostrada che è lì. Con l'alluvione hanno avuto una roba, ma il grave è che la segnaletica non esiste. Io adesso vado di qua a sinistra, ok? Deviazione, dove? C'è una segnaletica? Un cazzo! Poi se la piglia col sindaco, Matteucci si chiama, sindaco di Ravenna. Scusi, è di Ravenna? Sì, ciao. Scusa, ciao, ma come cazzo siete messi con la segnalettica? Dove deve andare lei? A Bologna. Ma voi che siete? Dovrebbe già essere aperta. Ma che municipio, chi è? Come si chiama il sindaco? Non lo so. Matteucci. Matteucci, ma svergognati cazzo. Non è un buon sindaco, vero? No. No, No. Allora, boicott Matteucci. Matteucci, vai a cagare. Giuseppe Chieti. Uè, Cruciani, non sono di Chieti, sono di Vasto. È tornato lui, Parenzo, è ritornato il fenomeno di Vasto. Sì, ho capito subito. Sì. È ritornato. Ascolta, Cruciani, mi complimento con lei. Ogni giorno, diventa più bravo come divulgatore scientifico. Mamma mia. In che senso, fenomeno? Io l'ho sempre considerato un raccomandato di ferro, no? Sì, ma raccomandato da chi? Ma da chi? Puttaniere, raccomandato. Poi... È un esperto di canne, cannabis, insomma. Ecco. Però sta migliorando. Ma non mi sono mai fatto una canna in vita mia. Ma a Cruciani, ascolta, mo le mando un fazzoletto per quel signore che ha fatto parlare mezz'ora, che io mi sono dovuto sucare, no? Perché non le ha chiesto all'aspirante suicida, perché non si dimette? E quanto è il debito della Sicilia? Vabbè, la ma quello che dell'Italia? Cazzo ce ne frega a noi del debito siciliano? E come che cazzo ce ne frega? Lei è pagato da Confindustria, Cruciani. Sì, vabbè, sono pagato da Confindustria, questo lo so, diciamo, dalla radio di Confindustria, siamo tutti d'accordo. Amico mio, non era il momento per fare una sessione sul debito della Sicilia che ci avrebbe portato molto lontano. Ma lui, se si voleva suicidare, non te lo doveva venire a dire, si doveva suicidare, siccome non c'ha le palle... Eccolo qua. Beh, no, adesso non è che non c'ha le palle. Ci ha pensato. Quando va in vacanza lei? Mai. Quando se ne va in vacanza? Comunque, con i maiali non mi ci faccia parlare. Perché io volevo parlare di due maiali stasera. Uno ce l'ha a fianco. Sì, no, non a fianco. Quando raggiungi 25 kg ci facciamo la porchetta. Maiale comunista di merda. Lui si inalbera subito. Si accende subito lui, capito? L'altro è l'altro subito. Maiale di Marino. Che cosa Marino. Aspetta di mettersi? Ho capito. Che gliene frega lei che sta a Vasto? Esatto. Di Marino? Questa è una domanda anche legittima. Lei che è un maiale come Marino, perché non lo va non gli suggerisci di dimettersi? Ma di io dimettersi. Comunque nei maiali non ci voglio parlare, comunista di merda. Okay. Vai, Giuseppe, adesso dai, comunista di merda. Se ne vada dall'Italia, che lei non è un italiano. No. Un italiano sono io che ho fatto un anno di... Che bello! Di militari, poi l'hanno cacciata anche da là. A Cuneo l'ha fatto militare. Pensa a te come stavano messi i militari. Sì. Guarda, io le faccio. Io sarò contentissimo quel giorno che sentirò la notizia stuprata la moglie e la figlia di maiale. Adesso, Giuseppe, adesso veramente stai esagerando. Allora, siccome sei veramente un coglione, cioè finché scherzi, eccetera, eccetera, finché scherzi e finché pigli in giro le cazzate, va bene, ma quando si toccano queste cose qui, quando si toccano queste cose qui, non c'è giustificazione a nulla. Finché fermo, stai zitto, imbecille. Finché si toccano queste cose qui, finché si gioca, si scherza, fai le tue battute sui comunisti, va benissimo, ti pigliamo in giro, gli alpini, le cose. Ma quando cominci a toccare queste cose, stuprare mogli, figli e non so che cosa, sei un emerito coglione, capito? Sei un coglione inaudito. Chiaro o no? È chiaro o no? Pentiti, chiedi scusa. Chiedi scusa per quello che hai detto. Io non chiedo chiedi scusa per quello che hai detto. Chiedi scusa. Chiedi scusa per quello che hai detto. Non mi interessa le scuse. Chiedi scusa. Chiedi scusa a tutti. Io no, ai maiali non chiedo chiedi scusa. Chiedi scusa per quello che hai detto. Pazzo, pazzo scatenato, furioso. Chiedi scusa per quello che hai detto. Ma quale furioso? Chiedi scusa per quello che hai detto. Lui dovrebbe chiedere scusa tutte delle cazzate che dice. Ma non c'entra niente le cazzate con quello che dici tu. Puoi dire anche mille cazzate al giorno. Tu hai detto che ti auguri lo stupro delle persone. Vergognati. Vergognati. Perché lui vergognati. Gli stupri. Ti devi vergognare, basta. Ti devi solo vergognare. Vergognati. Vergognati. Crucia. Vergognati e basta. Si faccio una canna, la Crucia che mi... Vergognati. Vergognati e basta. Via, vattene. Cruciani non offende mai nessuno. Io posso anche offendere qualcuno, adesso per rispondere alla gentile signora, eccetera. Posso anche offendere, questa trasmissione fatta di tante cose, di riflessioni piccole, attacchi, eccetera. Ma non si può sopportare una cosa del genere, dai, su. Dai, non si può sopportare. Non c'è bisogno di commenti, David. Cioè, nel senso che. No, non c'è bisogno di commenti, nel senso che non, giustamente stai zitto. Si può arrivare fino a un certo punto. Tutto si può. Ma non è che uno dice non vedo l'ora che. Dai, su, non lo voglio nemmeno ripetere, dai. Ferdinando Pordenone, dai. Sono qua, ragazzi, sono qua. Dimmi. Allora, io vorrei spendere una parola su Marino e sui forcaioli contro la casta. Voglio dire, quando parliamo di Marino, parliamo di un pessimo sindaco, ma parliamo anche del primo uomo che ha fatto un trapianto di fegato in Italia. Parliamo dell'uomo che ha che ha aperto gli ospedali psichiatrici giudiziari, che erano un orrore. Però sì, Ferdinando, no, da politico sta anche... Ok, può darsi che sia un mediocre sindaco, è circondato da dei deficienti. Ma nessuno lo contesta come medico, okay. Ma non mi interessa nemmeno. Ok, non importa. La signora è una signora nessuno che per un secondo di incazzatura di Marino questa è diventata famosa a livello nazionale. Non è giusto darle seguito. La signora è una nullità, è una popolana qualsiasi, non è che niente. Che vuol dire una nullità? Okay. Non è nulla. Poveretta. No, popolana lo ritiro, chiedo scusa, non volevo esprimermi chiedi così. Chiedi scusa pure tu. Non volevo esprimermi così in modo in ginocchio. Specie. Mi metto in ginocchio, permetti un attimo che mi metto sui piselli. Mettiti in ginocchio. Popolana, come ti permetti di dire popolana? Sto scherzando, Ferdinando. Ma non ho capito, perché sei così snob? La signora. Perché vedi, io sono snob, non sono snob. Io ce l'ho con quelli che sono forcaioli contro la casta. La casta altro non è che l'espressione degli italiani. Gli italiani hanno avuto. D'accordo, Ferdinando, ho capito, ma Marino, noi non è che adesso lo stiamo attaccando chissà per che cosa. No. Ha chiesto scusa. Però. Ma ha chiesto scusa. Si è dovuto prostrare, un uomo della sua caratura si deve prostrare davanti alla che persona. Prostrare? Ma che vuol dire prostrare? Ma dove siamo? Ha dovuto chiedere scusa su Facebook. Ma dico, un po' twitta le scuse come fa Renzi, twitta la mattina. Però, le scuse per la signora perché ha avuto un secondo di incazzatura. Ma quello è il sindaco. Ma dove cazzo siamo, ragazzi? Ma... Non vogliamo finire con questo forcaiolismo contro la casta. La casta altro non è che l'espressione ma che c'entra adesso la casta e le fa la forca? Non c'entra nulla in questo caso. Siamo obbligati a versi con i pubblici amministratori. Ma lascia perdere, stai tranquillo. Ferdinando, calmati un attimo. Allora, la situazione è molto semplice. C'è una manifestazione pubblica nel quartiere San Lorenzo di Roma. A un certo punto arriva una signora, un po' esagitata sicuramente, un po' alterata, la quale si incazza perché ha visto quel quartiere improvvisamente pulito, mentre normalmente è un bordello. E se la prende con Marino dicendo, a torto o a ragione, questo non lo so e non mi interessa, dicendo voi fate solamente passarella, eccetera, eccetera. Marino si arrabbia dicendo abbia rispetto per i morti, era l'anniversario, i giorni del bombardamento di San Lorenzo. Sì. E a un certo punto, mentre la signora insiste, il sindaco di Roma, non il fruttarolo accanto alla signora. Allora, che parli del fruttarolo, aspetta, del popolano, ma no, oddio, non è, c'è una differenza tra la signora e il sindaco. La signora si può permettere di incazzarsi, si può permettere di essere anche volgare, si può permettere anche di essere, come dire, pesante. Il sindaco no. Allora, il sindaco può perdere le staffe anche lui. Il sindaco. Infatti nessuno dice che deve essere impiccato. Ha detto lei che è l'insulto peggiore, connetta quei due neuroni che ha. Grazie, comprensibile, cioè, un momento. Vabbè, di comprensibile. Allora, tutto è comprensibile. Mica è Dio, mica è tenuto a essere. Ma perfetto, se l'avesse fatto Berlusconi. Se l'avesse dato Berlusconi l'avremmo mangiato vivo, dai. Appunto, ragazzi. Appunto. Ciao, Ferdinando. Ciao. ti spiego. Allora andiamo a Caserta da Gerardo, l'amico Gerardo, vai. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi, ciao. Dimmi Gerardo. Niente, volevo rispondere a quell'ascoltatore che diceva che chi va con le prostitute, le mignotte, come si vogliono chiamare, è meschino. Io miserabile. Quella... No, miserabile, in combutta comparenza. Sì, io dico miserabile, sì, non sì, meschino. Vabbè, miserabile. Vorrei dire pure apparenza, no? Esistono delle persone, tra cui un mio amico, che a volte non sono molto alti, tipo 1,30 m, hanno la faccia butterata, e che le donne non si sognano di dargliela. Se non esistessero queste care prostitute, no, ma persone, certo, non farebbero sesso. Ma questo è un altro, sicura. Certo, ma va benissimo, infatti. Ma va benissimo, non stai già stai restringendo la cosa. No, cioè, questi ma qua, non... questi poi, qua no, che non... partire, aspetta, Gerardo, non ho capito. Questo che qua brutto svolga un ruolo sociale. Tu accompagni queste persone, io a zoccole? Io questo amico non nascondo, l'ho accompagnato, ma proprio perché effettivamente. Questo non gliela fa, è nano praticamente. Ma poi voglio dire una cosa, brutto, no? Eccetera, non lo vogliono, va a troie per sfogarsi, ma è normale, altrimenti si ammazza. Scusa Parenzo, abbi pazienza. Non è che poi al paradosso, scusami, di farlo detassare, però, di farlo rientrare dal servizio sanitario nazionale. Non è che questo qua poi chiede alla prostituta: scusi signora prostituta, ma lei è sfruttata o non è sfruttata? Ha il pappone dietro oppure agisce in solitudine? No, ma è normale che non lo fa questo qua, no? Questo signore Gerardo, scusa, quante volte porti l'amico brutto tappo, anzi nano, a prostitute? Ma non solo io, cioè siamo degli amici, a me capita ogni tanto qualche volta. In quel però, di Caserta? In quel di Caserta? In quel di Caserta. In quel di Caserta. Dove vai gentilmente a prostitute? A Caserta? Ma io a Caserta non ce l'ho da prostituto, perché ringraziando Dio non ho bisogno, tra l'altro sono pure sposato. Quindi vabbè, quello diciamo non è di ostacolo, anzi di solito. Però mi è capitato di, ammetto che mi è capitato di andarci, cioè assolutamente. Io trovo che il sesso sia la cosa più bella, naturale, poi se puoi pure pagare non c'è problema di dare. Non c'è niente di male. Non hai problemi? Ah, se puoi pure pagare, dicevo. Cioè, se pagare per il sesso è una delle cose più belle, non c'è impegni mentali, è tranquillo. Tu. Però la cosa, sai qual è? È proprio che c'è gente che nasce per vietare, come i vegani, e come la stessa cosa, non bisogna mangiare carne, non bisogna andare a prostitute. Ma fatevi i cazzi vostri, io mi voglio andare a fare una bella scopata, pagare, mentre mi mangio pure una bistecca. Capito? Non dovete rompere i coglioni, questi che vietano dalla mattina alla sera. Ma non c'è, io sono a favore dell'apertura. Fai finire questa lezione di vita. Lezione, Gerardo era partito con una lezione di vita pazzesca. Si è andato a fare l'interruzione, è andato a interromperlo. Ha interrotto la poesia, questo coglione. Ma ti rendi conto? Hai una poesia pazzesca. Poesia, un maiale che parla di no, io se donna se picchio una persona gli faccio del male, se gli rubo dei soldi gli faccio del male, ma se io mi faccio una sana scopata, ok? E pago, ma chi faccio del male? Cosa vuoi? Che ti manca? Cosa? E se mentre mi faccio questa scopata mi mangio una bistecca di mucca che altrimenti si estinguerebbe se non ci fossimo noi esseri umani, tu che cosa cazzo vuoi da me? Lasciami in pace, ma perché dovete star a vietare? Bello, farsi una sana, ricca scopa. Dopo ma tu alle prostitute andrebbe dato un compenso mensile. Sai quante stragi ci sarebbero? Quanti mariti che ammazzano le mogli se non possono andare a prostitute? Ma tu ti rendi conto che di 11 italiani su 10 vanno a prostitute? Tutti vanno a prostitute, tutti scopano e pagano. Tutti, ci sta chi lo fa perché va per lavoro fuori, chi in albergo, chi ha detto. Tutti lo fanno, tutti, mettitelo in testa. Secondo me pure tu lo fai. No, forse non lo fa. Però dopo questo editoriale, fermi tutti, di Gerardo da Caserta chiuderei la trasmissione di stasera. Non c'è modo migliore per chiudere la trasmissione di stasera dopo questo magnifico editoriale, anche direi una lezione di vita, di vita. Pasolini, di Gerardo da Caserta. Dovremmo parlare anche del signore che ha pisciato in piazza, ha fatto quella performance teatrale pisciandosi addosso, pare pagato anche dal comune, pisciandosi addosso, sì, a Sant'Arcangelo in Romagna, però ne parleremo magari domani. Ciao. Siamo ad alti livelli qua, Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Merita una riflessione questo. Radio 24. La passione si sente.